può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. 18 e 5 minuti, buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. 800 24 00 24, cominciate subito a prenotare il vostro intervento, anche perché questa sera vi vogliamo giocare con voi, vogliamo giocare con voi e regalarvi biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma. Dovete indovinare il personaggio della settimana, un gioco che facciamo spesso nel weekend, si può fare, lo facciamo anche oggi che è venerdì. Un personaggio, lo dico subito, il primo indizio è che è legato ad una notizia divertente. Vi voglio informare che la senatrice Bianconi ha subito un trauma contusivo al gomito destro, è stata accompagnata in ospedale per eseguire delle radiografie che potranno confermare, speriamo che non abbia nessuna frattura. Il senatore Consiglio ha avuto un malore e attualmente si trova ancora in infermeria con parametri vitali nella norma, polso, pressione, frequenza cardiaca, saturazione periferica, è lucido, ben orientato. Mi ha pure fatto una battuta, dice: io sono grasso come lei, ma insomma vuol dire che sta bene. E questo è il presidente del Senato Grasso, a dire la verità, questo è quello che è avvenuto ieri, che a un certo punto ha letto, si è trasformato praticamente nel medico del Senato, ha letto il bollettino di salute, la senatrice Bianconi si è fatta male a un braccio. Prima sentiamo anche Grasso poco prima quando prende atto di quello che sta succedendo e deve sospendere la seduta. Allora, io garantisco che i lavori d'aula devono continuare, questa gazzarra deve finire. Allora, il primo senatore, i cartelli devono essere eliminati. Questo è lo spettacolo che state dando e questo è giusto che i cittadini conoscono. Non sospendo l'aula, voglio che tutti vedano. Chi l'ha detto che la politica è un mestiere per femminucce? Avete sentito come è andata a finire? Una settimana di bagarre in aula al Senato, ci sono anche un paio di feriti e contusi. Sentiamo la senatrice Bianconi che racconta come è successo quello che le è successo. Tafferugli in aula, li avrete anche visti, un componente della Lega si è messo sul passaggio, i commessi per ordine del Presidente ovviamente hanno tentato di sgombrare, mi sono soltanto trovata nel momento sbagliato, al posto sbagliato, non potevo uscire di lì perché quello era il mio posto e quindi sono rimasta incastrata. Anni, questo paese sta alla rovina, ve ne rendete conto? Qua fuori la gente ci dice che non ha pane e noi stiamo facendo le riforme costituzionali per fare che cosa? Per farvi eleggere i presidenti di regione condannati da nord a sud e dargli l'immunità. Io spero che per le strade scenda un intero paese a dire quanto non ci rappresentate più, nessuno. E questa era la senatrice del Movimento 5 Stelle, riconoscibilissima, Paola Taverna, come sempre infuocatissima nei suoi interventi. E allora viene da dire, ma come fa Renzi poco fa in conferenza stampa a dire, beh insomma questa settimana si è chiusa abbastanza bene all'insegna del dialogo, penso che potremo andare avanti così anche la settimana prossima. Ha detto proprio questo, ce l'abbiamo Renzi su questo, lo chiedo alla redazione, no magari lo troviamo, c'è il virgolettato dell'Ansa, le riforme stanno andando avanti e sono soddisfatto, spero che il clima di dialogo con i feriti al Senato, non lo so come fa a dirlo Renzi, consenta di recuperare e duri anche la settimana prossima, che sarà conclusiva. Di cosa lo vedremo. Intanto qualcuno ci aiuti a decifrare che cosa vuole dire vendola in questa frase. Ma non vorrei finire come Montezuma che, scrutando le stelle alla ricerca di segnali, finì prigioniero nel suo stesso castello, prigioniero di Fernando Cortés. Forse ci mancano alcuni riferimenti culturali e facciamo ammenda, ma cosa voleva dire Vendola con questa frase? Il concorso è aperto, il concorso è aperto questa sera. Sentiamo altre frasi, quelle di Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica di Roma, che, come dire, se ce ne fosse bisogno, non stempera la polemica tra Israele e palestinesi, non usa parole, diciamo, che possono contribuire a far ragionare tutti, comprese soprattutto le parti in causa in queste ore. Credo che non siano parole molto sagge queste. Poi ce lo direte voi, cari ascoltatori, all'800 24 00 24. Sentiamo. In questa guerra c'è una grande sperequazione. Ci sono pochi morti, se non i soldati, perché Israele usa l'intelligenza, i fondi propri e non dell'Unione Europea o del mondo arabo. Mi dovete spiegare qual è quell'esercito al mondo, per questo merita il Nobel, che non solo fa i volantini nella lingua del posto, manda gli sms, fa le telefonate direttamente utilizzando le tecnologie più avanzate che certamente ha Israele per tentare di scongiurare meno morti possibili. In questa guerra, ha detto Pacifici, ci sono stati pochi morti, se non soldati, ignorando però la conta delle vittime a Gaza, dove ci sono molte vittime anche tra i civili. È stato detto, ridetto da tutti, insomma, o se lo sono inventato tutti, oppure Pacifici sbaglia. E poi arriva a dire che Israele si merita il premio Nobel per la pace perché ha mandato gli avvisi ai palestinesi di quando bombardava. E anche questo è un punto di vista. Che dire, chiudiamo la copertina di oggi con Berlusconi, che è tornato a Cesano Boscone per la sua visita del venerdì alla casa per malati di Alzheimer. E c'è stato il siparietto con una fan che tutte le volte è rimasta l'unica, credo. All'inizio c'è stato più clamore, un po' di telecamere ci sono sempre, ma di gente ce n'è poca. È rimasta solo lei, sentiamo. Non riesco a capire, mi ha dato anche del lei, cosa non lo so, qualcosa è successo oggi. Ma lei continuerà a venire qui a Cesano? Certo che vengo. Vengo. Che carino il fratello. Posso fare qualcosa? No. Ti voglio bene, riprenditi. Grazie, mi spiace. Non ti preoccupare. Non venga più qua. No, venga. Lo sai che non posso. Non no, ma Silvio, dai. Non si disturbi più. Sì, grazie, io. Come se lo facessi. Dai, Presidente, la farà qui anche a Ferragosto, lei, o è un po' in vacanza. Aspetta un attimo. Andiamo, aspetta, non posso parlare. Attenzione i piedi, attenzione signori. Vabbè, insomma, le ha chiesto di non andare più lì. Lei si è domandata a sua volta, ma chissà perché c'è qualcosa sotto che non capisco. Forse Berlusconi si è preoccupato solo che la signora potesse essere vittima di un colpo di sole, anche se di sole in queste ore a Milano non ce n'è molto, però insomma. E questo era il siparietto davanti a Cesano Boscone. Sentiamo un Renzi, se ce l'abbiamo, almeno uno, visto che è ancora in corso la conferenza stampa. Abbiamo detto Renzi soddisfatto del clima di dialogo, che però lo vede solo lui in questo momento al Senato, visto come si è conclusa la settimana con tanto di conta dei feriti da parte del presidente Grasso. Renzi che dice: gli italiani vadano in vacanza tranquillamente, noi continueremo a lavorare, ma la crescita ci sarà, ma non comincia certo ad agosto. L'Italia ha le condizioni per ripartire in modo straordinario, è già ripartita. Noi dobbiamo incoraggiare questa ripartenza e la ripartenza naturalmente non potrà avvenire necessariamente ad agosto, per cui gli italiani vadano in ferie tranquillamente. Ho visto oggi che i dati sulle partenze intelligenti, gli italiani sappiano che se anche qualcuno di noi resterà ad agosto a lavorare, lo fa proprio perché a settembre ci sia una sorta di grande ripartenza col botto, ma che si godano le vacanze, le vivano con grande tranquillità. A volte fanno meglio delle grandi cose, dicono che col tempo arriverò a far convivere io te l'amore. We'll be right back. cominciamo con una storia che sta facendo discutere, commuovere, anche polemizzare un po' in tutta Italia. Una coppia, una convivenza con figli che finisce, ma essendo una coppia omosessuale, uno dei due genitori rischia di restare, e di fatto resta, senza diritti e senza doveri sui figli. Ed è questa la storia di Francesca Vecchioni, figlia di Roberto Vecchioni. Buonasera. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti, grazie. Allora, intanto è una storia che oggi è su alcuni giornali, è una storia di cui si era parlato tempo fa per la vostra unione, l'unione di due donne, poi avevate avuto la possibilità anche di avere una coppia di figli. E adesso perché Francesca Vecchioni ha deciso di tornare a rendere pubblica la separazione con la propria compagna? Allora, va bene, intanto buonasera a tutto il pubblico di Radio 24. In realtà io rilascio, cioè parlo a fatica, ma più che altro perché mi è difficile parlare naturalmente di cose personali, quindi la cosa che abbiamo deciso di fare io e Alessandra è stata di mettere il punto su una situazione, visto che era già stata resa visibile come un esempio per dare un'idea di che cosa sia la normalità di una famiglia omosessuale, che in questo caso è talmente normale che dopo 11 anni di relazione e due figlie si separa come può succedere a qualunque altra famiglia. La differenza, ed è questa la ragione per cui semplicemente abbiamo rilasciato l'intervista di cui state, sì, di cui state parlando, è che nel nostro caso Alessandra veramente non ha nessun diritto e nessun dovere, ma cioè, la cosa importante è mostrare che è un dato di fatto, no? È qualcosa che c'è. La nostra convivenza, le nostre figlie dei loro diritti fondamentalmente, che poi nel nostro caso io mi ritengo molto fortunata ad avere un buon rapporto, come potete immaginare bisogna sempre fare il confronto diretto, no? Non esiste l'eterosessualità, l'omosessualità, in questo caso è una coppia che come se fosse sposata da 11 anni che a un certo punto decide di separarsi, insomma una cosa che può succedere, ci sono dei figli e nel caso specifico uno dei due genitori non solo non può garantire alcune cose ai propri figli, ma anche se non volesse farlo, l'altro genitore, che è quello biologico, non può comunque in ogni caso chiedere che i diritti dei figli, perché chiariamo un aspetto, Francesca, lei è la mamma biologica delle due bambine, e come avete avuto queste due bambine? Intanto le bambine le abbiamo fatte con l'inseminazione e abbiamo utilizzato l'inseminazione come in realtà viene fatto da moltissime coppie etero e omosessuali, non in Italia, in questo caso non in Italia, perché come sappiamo l'eterologa, poi voi lo sapete, è stata in realtà se ne è discusso solo di recente, sì, no? Non era possibile quando voi avete deciso però di farlo, quando eravamo noi non era possibile farlo. Quindi queste due bambine, adesso che il rapporto tra lei e la sua compagna si sta interrompendo, voi dite non è che vogliamo mettere in luce chissà che cosa o fare chissà quale dichiarazione roboante, vogliamo solo far capire alla gente che mentre si discute di leggi possibili sulla regolarizzazione delle coppie di fatto, riconoscimento delle coppie di fatto eccetera, ci sono realtà vere, coppie, situazioni con figli che restano scoperte dal punto di vista dei diritti. Ma come siamo scoperti in questo caso nella coppia, quindi come si sa, forse se ne è parlato di più, no? Le coppie omosessuali non potendo accedere ad alcuni diritti, non esiste un allargamento sul matrimonio a tutti, quindi non potendo accedere ad alcuni diritti che sarebbero scontati se la coppia fosse eterosessuale, e la stessa cosa a maggior ragione ricade sui bambini, ma sui minori in questo caso è ancora più importante, perché proprio non c'è nessuna possibilità di garantire ai minori, a meno che è un po' come se una coppia eterosessuale dovesse per forza andare d'accordo quando si separa, perché altrimenti sui figli, se ci fosse un disaccordo, uno dei due genitori sarebbe tagliato fuori. Sarebbe tagliato fuori, ma i figli anche avrebbero tagliato fuori una figura fondamentale. Quale sarebbe per voi, Francesca, la soluzione di questa cosa qua? Ma allora io lo dico dico sempre, lo so che rischio di sembrare semplicistica la cosa, sì. Però la soluzione sarebbe avere tutti gli stessi diritti. Cioè i diritti non tolgono nulla a nessuno, i diritti, l'allargamento dei diritti, renderci tutte persone e non legate alla propria sessualità, ma legate a ciò che siamo, alla dignità umana, ai rapporti affettivi, ai rapporti di coppia, quelli di filiazione, la genitorialità. Se lo sappiamo bene, perché sennò non esisterebbero i genitori adottivi, non esisterebbero anche i genitori che nelle coppie eterosessuali per esempio utilizzano l'inseminazione eterologa. La genitorialità non è legata alla biologia, al legame biologico. Però ecco, mi faccia dire una cosa, perché mentre sul discorso del riconoscimento delle coppie di fatto, le coppie omosessuali, sì, il fatto di arrivare a una legge che tuteli queste realtà, che ci sono diversi sondaggi, insomma, anche tastando un po' il polso dell'opinione pubblica, ci si rende conto che ormai c'è una resistenza più forse dentro le aule del Parlamento, tra i partiti, sì, che temono forse, sì, di spostarsi su posizioni, sì, diciamo troppo nuove o nuoviste, sì, la gente, sì, è più avanti. Sul fatto già dei figli, delle adozioni, quando si parla di questo è già più difficile. Basta guardare quello successo, sì, in Francia, dove la legge sulle coppie c'è, quando hanno provato a fare anche quella sulle adozioni è scoppiato il finimondo. Allora, perché secondo lei c'è questa differenza? Io le do le mie sì, la mia considerazione. Allora, io ho due cose da dire. La prima è che la vita reale è questa, cioè nei fatti esistono coppie omosessuali, l'omosessualità esiste da sempre, le persone si innamorano indipendentemente dal sesso, si innamorano tutte nello stesso modo, le persone si vogliono nello stesso modo, si separano pure nello stesso modo, smettono di amarsi nello stesso modo, non c'è differenza. Lo stato, cioè i fatti, le cose reali della vita sono queste, e questo anche che ci si può mettere insieme dopo 11 anni, dopo 10 anni decidere di avere dei figli e come tutti avere poi bisogno di separarsi se finisce un amore, ma voler continuare a mantenere invece la famiglia, a contenere l'unione d'amore che c'è nella genitorialità. Ma questo è molto lontano dai discorsi politici, perché se la politica invece avesse la visione della realtà, la realtà dei fatti è questa. Nella realtà dei fatti non si toglie nulla a nessuno garantendo chi non è coperto. È come se questo ombrello diventasse un poco più grande. Non è che non copre tutti, deve coprire anche altre persone. Io sono d'accordo con lei, Francesca, e tante volte anche in questo programma, nel weekend, quando abbiamo parlato di storie di questo come la sua o anche altre, più diritti per qualcuno non fanno male a nessuno. Questa è la formula che mi piace usare. No, ma non è solo questo, ma in questo caso si parla comunque, sì, di minori, e si parla in ogni caso del fatto che la genitorialità esiste, è questa, non è qualcosa di inventato, nei fatti è così. Alessandra, noi però è... sì, sì, sì, ci siamo domandati anche se c'era qualche aspetto di cui sorridere di questa vicenda, che comunque mette a nudo i vostri sentimenti, la vostra situazione, anche se avete deciso voi di renderla pubblica, quindi non c'è una intrusione morbosa, però anche per così poi chiudere in allegria. Per esempio, come vi chiamano, anche se sono piccola, hanno 2 anni e mezzo le bambine? Si chiamano entrambe mamma, sì, mamma Fra e mamma Ale. Ah, quindi col nome di battesimo. Ma per esempio la scelta burocratica utilizzata, o di cui si è discusso, genitore 1, genitore 2, questa però è, come la vedete voi? Ma allora, io adesso non voglio scendere più che altro la polemica, anche perché se non ricordo male non era neanche corretta, perché se non ricordo male la Sei Bezzi, che era la delegata, sì, di Venezia, in realtà non aveva previsto 1 e 2, non aveva previsto un numero. Io non voglio entrare neanche in queste cose, ma però, perché sì, a me interessa, in realtà interessa solo far passare un messaggio molto semplice, ossia che nei fatti, al di là di tante parole, nei fatti veramente c'è qualcuno che può essere nostro, cioè un nostro amico, un nostro fratello, può essere nostro figlio, può essere qualcuno che conosciamo, che in queste situazioni non gode di alcuni diritti, certo, e non è coperto. No, e questo è esattamente quello per cui ne abbiamo voluto parlare. Però un'altra cosa, Francesca. No, volevo finire, sì, di dire questa cosa a proposito dei sondaggi. Sì. Solo questo. A parte il fatto che secondo me la realtà, cioè la vita reale, è un'altra. Io le persone che ho intorno, quando tu conosci una persona direttamente, il pregiudizio decade immediatamente, perché si capiscono a pelle i sentimenti e i legami tra le persone. Quindi sì, questo è vero, però poi quando si va a fare una legge in Parlamento è un'altra cosa, Francesca, non è che siamo a un altro livello, un livello più generale che riguarda tutti. Ma i diritti civili non sono un'opinione, cioè i diritti civili non possono essere per esempio decisi con referendum, perché altrimenti non potremo mai garantire una minoranza. I diritti civili devono essere un fatto, noi siamo un fatto, non siamo un'opinione. Un'altra domanda che le volevo fare è questa, però. La situazione nella quale vi trovate voi dimostra forse in qualche modo che i registi delle unioni civili che sono stati fatti, voi siete state le prime a iscrivervi, credo, a Milano proprio, quando l'Istituto Pisapia, si rivelano però a questo punto, come dire, simboliche ma inutili nella concretezza. Ma guardi, il registro delle unioni civili è il massimo che può fare un'amministrazione territoriale. Sì. Più di così non possono fare. Ce ne sono più di 80 di città in Italia che li hanno fatti e sono un segnale molto importante. Però si ferma lì, è un segnale, ma si ferma lì. No, le sto dicendo che nei poteri loro più di così non possono fare. Il potere vero è quello centrale, il potere è quello della legislazione nazionale. Ecco, a questo proposito, visto che il Presidente del Consiglio Renzi qualche settimana fa ha detto che in autunno ci si torna, no, non è un commento, le chiedo solo se ha fiducia in questa affermazione di Renzi che ha detto normeremo, potrebbe essere una cosa che interviene anche a, come dire, a risolvere il vostro caso. Ha fiducia? Io ho fiducia sempre nelle persone, ma in tutte le persone, anche in chi vota, chi poi deve decidere queste cose, quindi in tutti. Io ritengo che, come dire, dando fiducia si ottenga anche sempre qualcosa. Spero molto in questo. Io spero anche molto che forse qualcuno a un certo punto si renda conto che allargare i diritti non vuol dire toglierli, e quindi che non c'è una vera ragione per cui non farlo. Io una vera ragione, vera, non l'ho ancora sentita. La ragione che viene detta è sempre la solita, cioè andare contro la morale e contro la famiglia, quella fondata uomo-donna. Ma tra un po' gli unici a chiudere ancora i matrimoni sono i gay. No, non è questa. La famiglia fondata sull'uomo e la donna, noi abbiamo una... Insomma, sappiamo perfettamente che le differenti tipologie di famiglia costellano la nostra realtà, quindi non credo che sia questa una ragione reale. Poi non parlo io, ci sono gli psicologi, ci sono fior di ricerche su questi temi, non c'è bisogno della mia opinione, penso, no? Tra l'altro, in ogni caso, anche una persona che si ritiene facente parte, diciamo, di una performantissima famiglia tradizionale, non vedo perché debba negare a me la possibilità di fare una famiglia. Ecco. Ma lei, adesso le faccio un'altra domanda, l'ultima. Su Renzi ha detto che ha fiducia in lui, ma in tutti. No, non mi faccio fare dichiarazioni politiche. No, infatti non è dichiarazione. Non è dichiarazione. L'Italia, secondo lei, è un paese... Cioè, l'Italia è un paese omofobo o no? Cioè, si fida dell'Italia? Pensa che gli italiani siano pronti per tutto questo? Io mi fido degli italiani, ma non degli italiani, ma delle persone. Ma guardi che a me succede tutti i giorni, lo vivo sulla mia pelle. E il rapporto diretto, cioè le persone, quando lei va al parco con la sua compagna e le due bambine, ci sarà curiosità, immagino, ma non trova diffidenza. Curiosità, ma la diffidenza si abbatte con la conoscenza. Certo, questo è sempre vero. La paura è nascosta solo da chi non conosce qualcosa. Il pregiudizio è un'idea che ci si fa a priori, perché non si conosce qualcosa. Se si conosce una persona, si vede quello che si legge direttamente. Io mi identifico nel sentimento di un'altra persona e a quel punto lo capisco. E due genitori, ma anche... voglio dire, questa è una cosa che si capisce a pelle. Se tu sei al parco e stai giocando nell'area giochi con i tuoi figli e ci sono altri genitori, ci si riconosce subito. Quindi non è più essere omosessuali o no, è essere genitori e basta. Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 00 24. Se invece volete interagire in tempo reale con noi, ci trovate su Twitter, l'account del programma è chiocciola si può fare 24, mio chiocciola Ale Maurizi. Allora cominciamo con i vostri interventi e andiamo con Antonio che ci chiama da Modena. Buonasera. Sì. Antonio. Buonasera anche a lei. Eccoci qua. Ecco, io pensavo in verità al canguro, perché oltre ad essere un simpatico animale è anche una tecnica che permette di, come posso dire, di eliminare quegli emendamenti molto simili, sì, tra loro. Lei sta rispondendo al personaggio della settimana, il canguro. Esatto. Il canguro. Bella risposta, non è quella esatta però, Antonio, non è quella esatta. Peccato. Anche se ci stava, perché notizia della settimana c'era, il canguro è divertente, però non è questo. Grazie. Allora, vediamo poi se tra poco, insomma, fra un qualche minuto daremo un altro indizio, vediamo come ci muoviamo. Su questo andiamo a Marco che ci chiama da Udine. Buonasera. Marco? Caduto Marco? Pronto, ecco. Eccolo, Marco. Buonasera a tutti. Buonasera. Dai, intervenivo per questione annosa ormai di matrimoni gay, adozioni. Sì. Gay. Allora, la differenza è fondamentale, nel senso, a me va benissimo che ci sia un accordo, un matrimonio, qualcosa che riconosca i diritti dei gay. E quando c'è un'adozione, il diritto non è, cioè non esiste un diritto ad avere figli, esiste un diritto dei figli ad avere dei genitori, e questo lo insegnano le assistenti sociali che fanno tutto il percorso dell'adozione. Sì. In Italia la statistica ultima che so io per aver fatto il percorso di adozione è un bambino adottabile per 12 famiglie eterosessuali, sposate, eccetera, classiche come vengono previste dall'adozione, disponibile ad adottare. Per cui non è una questione di togliere diritti a coppie omosessuali, è una questione di inopportunità e soprattutto bisogna... No, scusi, cioè lei non ho capito, sta dicendo, glielo chiedo perché proprio non ho capito, siccome ci sono 12 famiglie per ogni bambino adottabile, bisogna dare priorità alle famiglie etero, questo sta dicendo? Sì, per un motivo molto semplice, che non è, ripeto, non è la famiglia, anche la famiglia eterosessuale che picchia i bambini, eccetera, non va bene. Non è una famiglia, non è un genitore che ha diritto ad avere figli, è un bambino che ha diritto ad avere due genitori. Sì. Nel mio senso è più opportuno. Due donne non sono due genitori? Due donne non sono. Non sono i due genitori che si può prevedere al meglio per un bambino, tutto qua. Quando ci saranno 12 bambini adottabili per una famiglia che li vuole, allora va benissimo anche allargare ai single, perché non facciamo adozione ai single anche allora e non solo alle coppie omosessuali. Mm. Però come la mettiamo? Comunque. Come la mettiamo con le procedure molto, adesso questo poi ci porta da un'altra parte, molto lente e che spesso appoggiano a nulla per quanto riguarda l'adozione. Questo percentuale che lei, questo rapporto, i 12 a 1 che lei ha calcolato, non lo so se è proprio così. Vabbè, comunque questo ci porterebbe altrove. Grazie a Marco da Udine. Andiamo con Francesco che ci chiama da Roma. Buonasera. Francesco, io volevo intervenire in merito alla signora della omosessuale con... Sì. Allora, io 11 anni fa credo che al di là adesso che io non sono d'accordo con l'adozione di bambini per coppie omosessuali, sì, però 11 anni fa la signora ha girato la legge in qualche modo, perché è andata all'estero, ha fatto inseminazione, comunque si ha girato la legge. No, è andata in un paese dove si poteva fare. Esatto. Sì, però in qualche modo ha girato la legge italiana. Ha girato la legge italiana. Abbassi la radio e ci ascolti al telefono, così non ci abbiamo ritorno, Francesco, se può. La legge italiana è andata sì, però è un'espressione, ha girato, che sembra che abbia fatto torto, no, a qualcuno. Ci mancherebbe, però in questo è andata momento, dove si poteva fare, va bene, questo allora, per dire cose. In questo momento non può lamentarsi perché la legge italiana sì. Non ah, vabbè. No, questo è vero, questo è vero. Cioè, loro poi sapevano quello a cui andavano incontro, su questo non c'è dubbio. Esatto, invece adesso dice, ah no, non è giusto. Allora, ripeto, al di là della polemica che sì, io sono per quanto riguarda, non sono d'accordo con i bambini adottati da una coppia omosessuale, al di là di quello perché credo sia un altro argomento, però in questo caso la signora non può adesso lamentarsi che la legge, diciamo così, non sia Però detto parte. Questo lei non può lamentarsi, lo sapeva, però va esatto. Bene così, va bene così che le due bambine hanno solo una mamma e l'altro genitore sparisce, secondo lei va bene così? È sbagliatissima e credo che la signora problemi non ne abbia, perché continuerà a fare quello che ha fatto come prima, avendo due mamme, di fronte allo Stato italiano faceva finta di averne solo una, però ripeto, mi dispiace solo per le bambine che adesso si trovano in quella situazione. Grazie Francesco, buona serata. Buona serata. Cosimo da Taranto. Buonasera. Pronto? La sentiamo, Cosimo, okay. Forte e chiaro. Ah, ok, intanto buonasera a tutti e complimenti per la conduzione del programma che fa lei, molto più garbato del dottor Cruciani. Allora, volevo dire inizialmente sì? che fine gennaio, sul mattino di Napoli, arrivato dall'aeroporto che stavo venendo da Istanbul, 10 giorni non vedendo né televisione italiana né niente, scendo e prendo il giornale dove c'era scritto... Lei parla come Fitto, quello di Forza Italia, glielo hanno già detto? No, mi faccio finire. No, ma dicevo come intonazione, era solo una notazione. No, io sinceramente scendo dall'aeroporto sì. e prendo il giornale il mattino e c'era scritto Renzi ha detto a Letta che in 10 mesi ha fatto solo fallimenti. Allora io le dico subito che io già da tempo, prima di che lui iniziasse, l'avevo già messo il nome di Burattino, significa Pinocchio in italiano, per gli italiani che ancora credono alle stronzate. Allora, noi stiamo vivendo delle situazioni drammatiche a livello lavorativo. Questi, perché loro prendono lo stipendio tranquillamente, se ne strafottono degli italiani. Però questo valeva anche prima per Letta, valeva per Monti, valeva per Berlusconi. Sì, cioè, quel discorso che lei sta facendo vale per tutti. Sì. Cioè, tutti i politici prendono lo stipendio. Poi gli hanno dato l'accontentino di farlo diventare senatore, perché se no non stava bene quel signore. Allora, conclusione dei fatti, noi dobbiamo andare alla fine perché qualcosa succederà prima o dopo, perché la gente ancora non ha capito, dobbiamo scendere tutti in piazza. Sì. Io con degli amici stiamo preparando un partito sui diritti e sui doveri, questa è l'idea nostra. Come si chiama il partito? E stiamo preparando ancora, poi quando sarà lo faremo sapere un pochettino in pubblico. È stato organizzando qualche manifestazione in piazza in questi giorni? Ancora manifestazione no, stiamo preparando un partito nell'insieme per le tasse, perché questa è camorra legalizzata. Altro cioè che non ho capito, un partito per le tasse perché questa è camorra legalizzata? Non solo per le tasse. Per cioè un partito per le tasse o contro le tasse, Cosimo? Contro le tasse. Perché le tasse sono la camorra legalizzata? No, non e se lo Stato è camorrale il 22%, poi vai a finire al 44% cioè... 66%. Poi il fatto che stanno distruggendo 5 generazioni a livello lavorativo, che non c'è lavoro per nessuno. Stanno chi? I politici? Stanno chi? I politici? I politici porci, quelli banchettano sempre al grande, perché loro vanno su a Montecitorio, fanno le leggi solo per i fessi degli italiani. Queste sono le risultanze che l'Italia sta morendo. Altro che Renzo dice... adesso dobbiamo andare in vacanza, qui non ci sono soldi per mangiare, della realtà è un soffo, questo si chiama democrazia. Lei non ha soldi per mangiare? Io da una vita che lavoro, però le cose stanno male. Io un esempio, fra giorni devo pagare INPS e IVA e via di seguito. Ma lei è un libero professionista, se deve pagare l'INPS e l'IVA sarà un libero professionista. Le pago fin tanto che deve pagare l'IVA, e lo so, non fa piacere, sa, quando io prendo lo stipendio alla fine del mese e mi detraggono quasi il 50%, anche a me un po' mi rode. Ed è giusto, secondo lei. Però che dobbiamo fare? E loro devono banchettare con 17-18 mila euro, perché a casa mia si dice che il saggio non crede quello che sta a digiuno, siccome loro prendono 17-18 mila euro al mese, ma che se ne fregano di uno che prende 1.200, 1.300, 1.500, allora mettono tasse tranquillamente, tanto noi siamo definiti da loro una plebaglia. Siccome ancora gli italiani non hanno percepito che questi ci stanno soggiogando alla grande, ma tempo non durerà molto, vedremo che cosa succederà in Italia. In bocca al lupo per il suo partito, grazie Cosimo, buona serata. Bisogna far così, perché sennò va avanti Cosimo, con il suo intervento non si ferma. Francesco da Bari, buonasera. Buonasera, grazie per avermi chiamato e per intervenire. Io intervengo, lei prima diceva appunto se c'era qualcuno che poteva spiegare le parole di Vendola. Io sono un pugliese, no? E quindi siamo abituati un po' a queste esternazioni di Vendola. Tenga presente che io ho l'età sua, quindi diciamo che l'ho conosciuto anche in gioventù, come a scuola, eccetera. Lui è sempre stato un ottimo parolaio, ha sfruttato molto bene una lobby che oggi si è inserito molto bene nella logica politica attuale, quella delle lobby, no? Che è quella lì in questo momento dei gay, degli omosessuali, per cui Tenga presente, non so, noi qui abbiamo un comico che si chiama Checco Zalone, che gli fa la limitazione, e quindi lui viene definito quindi un qualunquista, ignorante, fascista, tra le altre cose. Quindi lui è così, lui esce, lui succede in regione, la sanità ultimamente, l'ultimo scandalo di 50 milioni, eccetera, non sa nulla. Succede in Ilva, la gente che muore, dei problemi che ci sono stati, ma lui non sa nulla. Però è il prodotto politico che noi italiani ci meritiamo. Prima la persona che prima stava parlando appunto di questo nuovo movimento politico, non so a cui sta lavorando, sarà l'ennesimo movimento politico magari alle 5 Stelle, di 5 Stelle, dove c'è gente che si parla, ma non si conclude niente. Il problema è questo, secondo me, è che noi purtroppo raccogliamo l'eredità di politiche sbagliate, l'eredità di persone che, ripeto, ci meritiamo perché le votiamo, le va votiamo bene, noi, però non è riuscito a capire, a tradurre quello che voleva dire Vendola, cioè ha fatto un intervento su Vendola, però quello che voleva dire non l'ha capito neanche lei. Solamente pensare una cosa, che sì. Vendola è anche un intellettuale, a volte diciamo che sì, intellettuale di provincia, se vogliamo, che si bea di questa cosa di conoscere, diciamo che spesso non è facile seguire il filo delle sue argomentazioni, grazie Francesco, grazie da Bari, buona serata. Stiamo cercando, cari ascoltatori, all'800 24 00 24, anche un personaggio della settimana. Vogliamo giocare così oggi che è venerdì, un personaggio che è legato ad una notizia divertente. Chi indovina il primo si vince i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma. Oggi c'è una notizia che riguarda la disoccupazione, che è scesa leggermente dal 12,3%, meno 0,3%, solamente poco. Ieri Renzi ha detto sono dati pazzarelli quest'estate, con la disoccupazione che scende ma la crescita che non sale, non si riesce a capire come sia possibile, misteri dell'Istat. E allora noi vogliamo raccontare una piccola storia, perché a volte per trovare lavoro bisogna battere altre strade oppure altre acque. In mezzo all'acqua è il caso di un giovane di 30 anni che, laurea in astronomia in tasca, si è messo a fabbricare remi per le barche di Venezia, e noi lo abbiamo qua con noi, lo salutiamo, siamo felici per lui. Piero Dri, buonasera. Buonasera a tutti. Piero, intanto adesso sei in bottega? Sì. Perché ci avevi detto... Sì, è quasi l'orario di chiusura, dai. Quasi, quindi si tira il fiato, perché poi il weekend non si lavora, o sì? Ma tengo il sabato come jolly, diciamo. Ah, cioè se c'è qualche consegna da fare, si lavora, sì, se no esatto, si fa vacanza. Sì, vengo, ma se no sto volentieri. È vicino all'acqua la tua bottega? Si può sentire il rumore dell'acqua? Non proprio, siamo a circa 50-60 metri. Quindi non riusciamo. Sì, è un po', no, non si riesce in tempo reale. Ma come si chiama il tuo mestiere? Allora, il mio lavoro è quello del remer, che sarebbe il costruttore di remi. È un lavoro antico perché ha più di 700 anni, è nato nel 1307 ufficialmente a Venezia. Il remer, e cosa fai esattamente? Il remer costruisce i remi per le barche veneziane, e quindi per la gondola, ma non solo per la gondola, perché a Venezia ci sono molti altri tipi di barche, alcuni in disuso purtroppo, altri però che vengono utilizzati lo stesso da privati oppure per attività sportiva, regate comunali, eccetera. E quindi principalmente remi, e poi un'altra parte del lavoro riguarda la costruzione delle cosiddette forcole, che sono gli oggetti in legno scolpiti, sì, che reggono il remo durante l'azione appunto del remare, dell'avogata tipica veneziana, ecco. È un mestiere affascinante, sicuramente questo qua, cioè, l'artigiano lavora in legno, si cucca di più facendo questo o facendo l'astronomo, Piero? Beh, diciamo che in ogni campo ognuno ha le sue carte da giocarsi, dai. Qua è comodo perché c'è la bottega, quindi non c'è problema da quel punto di vista. In che senso c'è la bottega? È comodo, scusa, perché passano le ragazze passa lì davanti. Si sa a Venezia, sa a Venezia, passa sempre gente. C'è turismo, cui, questo è da non sottovalutare. La bottega, vero, ai fini del comunque, sì, ai fini del modo cucco. Di conoscere un sacco di sei fidanzato, no? Perché magari c'è una fidanzata all'ascolto preoccupata. Non sono più fidanzato da poco, perché ecco, non ho più problemi. Non facciamo torto a nessuno. come ti è venuto in mente di passare dagli studi in astronomia con la laurea a un lavoro così? Ma diciamo che è stata un po' un'elaborazione che è venuta un po' alla volta, ecco. Dopo i primi 3 anni passati tranquillamente senza patemi d'animo, durante la laurea magistrale ho cominciato a intravedere meglio quale sarebbe stato il mio futuro e a conoscere persone che comunque... È caduto Piero? Recuperiamolo subito, recuperiamolo, mi raccomando. Il nostro Remer di Venezia, che ancora nella sua bottega, ancora per qualche minuto prima della chiusura del venerdì sera, ci stava raccontando come gli era saltato per la testa di passare dalla laurea in astronomia a questo lavoro. Tra l'altro questa è una serie, ringraziamo anche Corriere della Sera, i suoi blog, L'Italia che non ti aspetti, sono storie anche filmate, e questa era una di queste, l'abbiamo pescata lì. Piero? Sì, sono qua, è caduta la linea. È caduto il telefono nell'acqua, no? Quasi. Ci stavi raccontando il passaggio da una vita in cui ti immaginavi forse di fare, che ne so, il ricercatore universitario o sì, che cosa? Sì, beh, alla fine del futuro sarebbe stato quello. Poi ho capito un po' alla volta che quello che volevo dalla mia vita era un po' ritornare alle origini, cioè la mia città che è Venezia, a cui sono molto legato, e recuperare un po' quegli aspetti che la vita di adesso tenderebbe un po' a cancellare, quindi... Diciamo che il mio motto è quello per cui per andare avanti nel futuro bisogna un po' tornare al passato, secondo me. Ma è un ritorno al passato, lo vivi così, oppure è un modo nuovo di fare le cose, diciamo? Io lo vivo come sostanzialmente un recupero delle cose necessarie nella vita di tutti i giorni. Tipo i remi per le barche. Sì, necessari intendo anche quelle cose che magari possono, diciamo, appieno dare soddisfazione e felicità alla gente. E secondo il mio punto di vista non è tanto, non so, magari può essere la tecnologia più sfrenata, anche se sono appassionato di tecnologia, però ritornare all'essenziale, ecco, e alle cose che veramente danno così... Mi piace come pensarla così, ecco. Tornando indietro, rifaresti l'università oppure lo riterresti un percorso, diciamo, inutile? No, ma penso che rifarei sicuramente i primi 3 anni, poi probabilmente, col senno di poi, avrei lasciato prima, però sono contento di aver finito tutto e non aver rimorsi. Cioè si può dire che uno può studiare, può fare l'università per una crescita anche personale, per vedere se c'è uno sbocco di lavoro, però a un certo punto si può anche cambiare percorso e fare qualcos'altro, andare magari alla ricerca di un lavoro più artigianale o diverso. Penso proprio di sì, cioè l'università comunque, anche se magari sta passando un brutto periodo, diciamo, è comunque un ambiente che ti fa conoscere il mondo, che ti apre la mente. Cioè fa bene magari, comunque, a prescindere, poi a prescindere dal lavoro che uno fa. Ma quanto costano i remi che tu fai, Piero? Ma i remi costano più o meno dai 250 ai 300 euro circa. Ho visto che siete in quattro a Venezia a fare questo lavoro. Siamo quattro remeli. È stato difficile però inserirsi, perché qualcuno che ha vissuto a Venezia oggi, quando Camilla Tomadini della redazione, stava anticipando l'incontro con te, dice: ma a Venezia il fatto delle barche, delle gondole, è anche un po' una casta chiusa. Come hai fatto a entrare in questo mondo? È stato difficile? Diciamo che non è che trovi il tappeto rosso pronto ad accoglierti. È un po' difficile Cioè, la casta riguarda più che altro i gondolieri, diciamo, io fortunatamente non ne faccio parte, però comunque avere la possibilità di imparare un mestiere non è scontato, ecco. Io ho avuto la fortuna di trovare un maestro molto disponibile e veramente gentile, insomma, a trasmettermi alcune conoscenze che non è... Appunto, ripeto, non è scontato assolutamente. Sì, cioè, hai avuto fortuna, però poi, sempre da quello che ho visto nel filmato, tu dici, ci hai messo comunque un po' di anni ad arrivare a questo punto, ti sei trovato uno spazio e te lo sei ristrutturato da solo, cioè anche un po' di olio di gomito. Quello. Sì, no, beh, quello senz'altro, cioè, se non è una passeggiata. No. Se hai imparato una cosa da questa avventura, diciamo, è che... Si arriva a un risultato soltanto se si lotta veramente fino alla fine, perché tante volte tutto sembra voltarsi contro di te, dalla burocrazia ai problemi economici, a qualunque tipo di problema, anche psicologico, e trovare di giorno in giorno l'energia di andare avanti è una bella sfida, dopo però ne vale la pena. Dalle stelle alle acque calme della laguna di Venezia, così iniziava l'articolo che ti riguardava, e in effetti è proprio così. Grazie, in bocca al lupo per grazie il tuo lavoro, Piero Dri, grazie. Il nostro grazie. Remer di Venezia, che come ti hai sentito, insomma, laurea in tasca in astronomia, ha deciso a un certo punto di cambiare completamente vita, ed è una risposta anche questa al fatto dell'occupazione. Ritorniamo ancora agli ascoltatori per un po'. Diego dalla provincia di Pordenone, buonasera. Buonasera, grazie per avermi richiamato. Io volevo intervenire per parlare sulle coppie di fatto, sulle sì. coppie omosessuali, sulle coppie che non sono normali o considerate tali. Io volevo porre l'attenzione solo su un fatto, no? Come diceva giustamente la signora, se tutti avessimo gli stessi diritti nessuno avrebbe un grosso problema, perché tutti potremmo richiedere la stessa attenzione, la stessa cura. E volevo porre l'attenzione sul fatto che è caduto stasera, abbiamo le linee, come dire, come dei colabrodi, cioè casca tutto, si perde tutto. Allora, giusto il tempo di riepilogare il gioco della settimana, il personaggio della settimana che vogliamo giocare con voi. Allora, a questo punto va, diamo un altro indizio, così nel frattempo durante il giornale radio ci pensate e poi ci chiamate all'800 24 00 24 e rispondete, perché insomma in palio ci sono i bigliettini per la mostra di Andy Warhol a Roma. Abbiamo detto che il personaggio della settimana è legato ad una notizia divertente e diciamo a questo punto anche che il nostro protagonista è al plurale, e quindi notizia divertente, protagonista al plurale. 800 24 00 24. Sentirsi con papà senza santi da pregare si può fare, ed avere tanti soldi si può fare, si può fare, l'attualità anche d'estate. 19:16 minuti, buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori. Abbiamo avuto problemi con le linee telefoniche, quindi il traffico andrà in onda forse più avanti se lo recuperiamo, altrimenti niente informazioni sul traffico al momento, ma non è colpa nostra, causa di forza maggiore. Se volete interagire con noi, ve lo ricordo, l'account Twitter del programma è @sipofare24, il mio @AleMaurizi. Stiamo cercando un personaggio della settimana, l'indizio è che la notizia a cui è legato è divertente ed è anche un personaggio al plurale, si vincono i biglietti per la mostra di Andy Warhol. Che dire, andiamo a dare una rispolverata alla copertina. Voglio informare che la senatrice Bianconi ha subito un trauma contusivo al gomito destro e è stata accompagnata in ospedale per eseguire delle radiografie che potranno confermare, speriamo che non abbia nessuna frattura. Il senatore Consiglio ha avuto un malore e attualmente si trova ancora in infermeria con parametri vitali nella norma, polso, pressione, frequenza cardiaca, saturazione periferica, è lucido, ben orientato. Mi ha pure fatto una battuta, dice io sono grasso come lei, ma insomma vuol dire che sta bene. Sì. E questo è il presidente del Senato Piero Grasso, che si trasforma per un momento in una specie di medico, di bollettino della mutua, e dà resoconto di quello che è successo. La senatrice Bianconi che si è fatta male al braccio, invece il senatore Nunziante Buonconsiglio che ha avuto un malore. Tutto bene, quel che finisce bene. Sentiamo qualche voce sempre di giornata. Paola Tavanzi, prima la Bianconi, abbiamo la senatrice Bianconi che ripercorre come è successo quello che le è successo, cioè l'incidente al braccio. Tafferugli in aula, li avrete anche visti, un componente della Lega si è messo sul passaggio, i commessi per ordine del Presidente ovviamente hanno tentato di sgombrare, mi sono soltanto trovata nel momento sbagliato, al posto sbagliato, non potevo uscire di lì perché quello era il mio posto e quindi sono rimasta incastrata. Anni, questo paese sta alla rovina, ve ne rendete conto? Qua fuori la gente ci dice che non ha pane e noi stiamo facendo le riforme costituzionali per fare che cosa? Per farvi eleggere i presidenti di regione condannati da nord a sud e dargli l'immunità. Visto che la stampa asservita a questa dittatura nascente continua a mentire su tutti i giornali e su tutte le televisioni, diciamo qual è la verità. Abbiamo chiesto esclusivamente due cose: che ci venisse detto per quale cavolo di motivo dovevate eleggere. Per favore usi un'espressione più adeguata a quest'Aula e al suo ruolo. Qui dentro è stato violato ben più che un lessico. Mi creda, lo vivo sulla mia pelle tutti i giorni fuori da queste istituzioni per le maledette leggi che escono da queste aule, che se ne fregano delle necessità dei cittadini, ma che vanno. Non può dire che queste aule non può fare. Io le la sono rovinati. Non la faccio. È un paese rovinato. Questi toni non sono adeguati a quest'aula. E questa era la senatrice Paola Taverna. Un paese rovinato, ha continuato a urlare. Beh, insomma, che c'entra una roba del genere mentre si discute della riforma del Senato? Un paese rovinato. Ma lei è così. Altre volte, con toni meno urlanti, era stata magari anche più efficace nelle sue dichiarazioni. La senatrice del Movimento 5 Stelle, che insomma, dal punto di vista mediatico, regala sempre molto. In tutto questo è stato approvato un articolo della riforma del Senato, articolo 2 del DDL Boschi, che riduce i parlamentari di Palazzo Madama del Senato a numero di 100, e Renzi è soddisfatto, dice la prossima settimana chiudiamo, è stato una settimana che è andata bene, è positivo questo clima disteso, che per ora però diciamo che l'ha visto un po' solo lui il clima disteso al Senato, con tutto quello che vi abbiamo fatto sentire anche noi. Sentiamo un po' di Renzi. L'Italia ha le condizioni per ripartire in modo straordinario, è già ripartita, noi dobbiamo incoraggiare questa ripartenza. E la ripartenza naturalmente non potrà avvenire necessariamente ad agosto, per cui gli italiani vadano in ferie tranquillamente. Ho visto oggi che i dati sulle partenze intelligenti, gli italiani sappiano che se anche qualcuno di noi resterà ad agosto a lavorare, lo fa proprio perché a settembre ci sia una sorta di grande ripartenza col botto, ma che si godano le vacanze, le vivano con grande tranquillità. Dichiarazioni anche per quanto riguarda la situazione in Israele, la guerra in atto con i palestinesi. Sentite il presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici, che cosa dice a proposito dell'esercito israeliano, che arriva a dire si merita il premio Nobel per la pace. Sentiamo perché. Mi dovete spiegare qual è quell'esercito al mondo, per questo merita il Nobel, che non solo fa i volantini nella lingua del posto, manda gli sms e fa le telefonate direttamente utilizzando le tecnologie più avanzate che certamente ha Israele per tentare di scongiurare meno morti possibili. 800 24 0024. Tra poco riprendiamo anche con i vostri interventi, cari ascoltatori, e vi ricordo, vi rilancio ancora una volta il nostro gioco. Stiamo cercando un personaggio della settimana, gli indizi li ho già detti. Tra poco le vostre risposte. Beach on the beach, sotto solo la pelle brucia, sotto la luna ancora di più. Quando fuori flexi Superman, senza fare love non si può stare. Oh baby. Beach on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, gli occhi neri. Ed è il momento della nostra rubrica Inviati sotto l'ombrellone. Andiamo a vedere che aria tira, se c'è il sole intanto nelle spiagge italiane, ma soprattutto che aria tira, cosa succede, di cosa si parla, di cosa si discute. Questa sera abbiamo scelto di parlarvi però di una iniziativa da parte, è una campagna da parte dell'associazione Mare Vivo. Ma il mare non vale una cicca, ne parliamo con Laura Gentile, responsabile proprio di questa campagna. Buonasera. Buonasera a voi. Una campagna che consiste in questo: voi proprio in questo weekend di agosto distribuirete quanti posascenere in tutta Italia, tascabili? Allora, distribuiremo per il sesto anno, in collaborazione con la Japan Tobacco International, il SIB, la Capitaneria di Porto e anche con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente. Ci tengo a ringraziare questi preziosissimi compagni di viaggio. Distribuiremo su circa 450 spiagge italiane, forse anche di più, 120.000 posacenere tascabili. Sono tanti 120.000 in 450 spiagge. C'è l'elenco sono da qualche tanti, parte, non, no? Sono tanti, ma ne vorremmo distribuire ancora di più. In effetti siamo partiti 6 anni fa con una distribuzione di circa 40.000 pezzi, sì, e siamo man mano cresciuti e insomma cerchiamo sempre di, come dire, migliorare questa iniziativa, anche perché ce lo chiedono adesso. Riceviamo moltissime richieste di tutti vogliono dire, partecipare di vogliono aderire, certo. Intanto grazie per quello che fate, perché comunque chi non sarebbe contento insomma di qualcuno che dà una mano, perché questa cosa delle cicche sulla spiaggia è effettivamente molto fastidiosa, insomma, anche sì, se magari sta cambiando un po' la mentalità, qualcuno ci fa attenzione, però moltissimi non fanno per niente attenzione a questa cosa. No, è vero, devo dire che cominciano le persone ad ingegnarsi su come evitare di, diciamo, gettare un mozzicone, però purtroppo ancora è un gesto irrefrenabile quello di disfarsi di una cicca in qualunque modo. È una cosa anche che ti responsabilizza, lo butti là, è proprio come, come una cosa che ti non ti fai carico del problema. Invece bisogna farsi carico di questo problema con un sacchettino, il pacchetto delle sigarette svuotato, qualunque cosa, la cicchettina, perché poi la mattina dopo in spiaggia vai, stendi l'asciugamano e c'è la cicca sotto che fa schifo. Tra l'altro quanto ci vuole per far degradare una cicca di sigaretta? Un mozzicone può metterci anche 5 anni per degradarsi completamente. E tra l'altro voglio sottolineare che ovviamente non parliamo di un singolo mozzicone, ma della quantità di mozziconi che vengono ritrovati ogni anno ovunque, che tra l'altro insieme alle plastiche sono fra i rifiuti che più, diciamo, su quali ci imbattiamo più frequentemente, più numerosi, più frequenti. Ma poi li ritirate anche i posaceneri? Oppure... Non ho capito, mi scusi. No, dico, i posaceneri, oltre a consegnarli, li ritirate pieni o no? No, noi speriamo, no, assolutamente. Questi sono posaceneri fatti in modo tale che... ognuno poi se li porta dietro. Li ricevano, se li devono portare via, perché non sono uso e getta, si lavano, si riutilizzano, li devono portare, anzi proprio questo è l'invito che noi facciamo, laddove trovate i nostri posaceneri, mi raccomando, utilizzateli anche quando rientrate in città o se vi spostate in altre località tutto l'anno. Quindi diventa, diciamo, una specie di gadget che uno si può portare dietro sempre. Sì. Però, diciamo, il messaggio fondamentale che con questa campagna vogliamo dare, in effetti diamo uno strumento pratico e concreto per contrastare questo brutto vizio di ancora di molte persone. Dall'altra parte anche ci teniamo a fare un'attività di sensibilizzazione sui temi di rispetto del mare in generale, ma anche su questo più specifico dei rifiuti. La cicca è un rifiuto e questa è, diciamo, la prima attenzione che i fumatori devono avere. È un rifiuto e come tale va trattato. Tra l'altro avevo letto forse da qualche parte che i mozziconi sono riciclabili in qualche modo, ci si possono fare delle cose, ormai si possono fare cose con tutto, compreso forse quelli, però questo è un altro aspetto. Questo forse è un futuro prossimo, Sì, magari, chi lo sa. Magari. Intanto cominciamo a non lasciarli sulla spiaggia. Poi esatto. una cosa che mi preme a questo punto dell'estate, Laura, perché è un po' l'estate in cui si ridiscute sempre di più del fatto se si può fumare o no nella spiaggia, perché ci sono spiagge dove non si può fumare. Ora del mozzicone abbiamo detto, ma secondo te non è più alla moda fumare in spiaggia? È una cosa che non bisogna fare? Allora, guarda, io ti dico, noi rispetto al tema del fumo non entriamo nel merito, nel senso che con questa campagna vogliamo dare un messaggio molto preciso: fumate se volete, chi vuole fumare fuma, purché non inquini. Questa, diciamo, che non butti la cicca per terra. Poi rispetto ai comportamenti, come anche gettare una cicca fa parte di un comportamento, cioè gettarla in modo corretto è un indice di responsabilità, anche chi fuma deve sempre tener conto di tutta una serie di attenzioni e soprattutto del rispetto delle persone che è intorno, che potrebbero non gradire il fumo e quindi comportarsi di conseguenza. Va bene, grazie ancora per questa campagna Mare Vivo, ma il mare non vale una cicca. Grazie Laura Gentile, buona estate. Grazie a voi, buona estate a tutti. E mi raccomando, non buttate le cicche sulla spiaggia, organizzatevi in qualche modo, che si può fare. Un paio di ascoltatori al volo, forse anche sul gioco. Va, Francesco da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Secondo me è Laura Pausini. Il personaggio della settimana, Laura Pausini. Abbiamo detto sì. Un personaggio legato a una notizia divertente. E qual è la notizia? Glielo faccio dire perché tanto lo sappiamo tutti, però. Sa com'è Francesco? Fiore dei birichini. È andata sul palco probabilmente senza intimo. Sì, insomma, aveva un accappatoio senza slip e si è aperto, esatto, per una ventata. Esatto. La notizia era divertente, il personaggio però che avevamo pensato non era Laura Pausini. Grazie Francesco, ho grazie. Capito. Prego, arrivederci. Clara da Bergamo. No, io ho pensato tutt'altro. Sì? Pensavo Alessandro Milan, che partecipa a un nuovo programma in fine settimana. Cioè, il nostro collega di Radio 24, Alessandro Milan, personaggio della settimana. Perché sarebbe legato a una notizia divertente? Perché appunto fa un programma divertente con un comico. Che ho pensato fosse lui. Va bene, grazie Clara per aver pensato comunque a noi di Radio 24, ma non era il nostro personaggio Alessandro Milan, assolutamente. 800 24 00 24, 800 24 00 24, ascoltatori in onda. Cominciamo con Norberto che ci chiama da Lecco. Buonasera. Buonasera. Prego Norberto, tocca a lei. Avevo chiamato, va bene, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Devo dire, un po' più tranquilla della versione preserale normalmente gestita da Crociani. Dicevo, io quando sono iniziato le ostilità su Gaza, sono rimasto colpito da un filmato che faceva vedere il suono delle sirene a Tel Aviv, con una città che poteva essere New York, dove la gente scappava nei rifugi, e quell'altro è la stessa scena 10 secondi dopo a Gaza, dove la gente scappava, ma non c'era una strada asfaltata, non c'erano i grattacieli, ovvero c'era la povertà. Quello che mi chiedo è come è possibile che un popolo così ricco spenda così tanti soldi per armarsi e poi magari faccia cose che ingiustamente sono state fatte a loro in passato e che non è corretto vengano fatte a nessun popolo, piuttosto che investire un po' di denaro nel dar da mangiare a qualche povero disgraziato che non ce n'ha così tanto, magari offrirgli un po' di lavoro e forse magari a quel punto si tolgono le voglie di fare attentati suicidi e quant'altro, perché... Cioè, scusi Norberto, lei la sta prendendo un po' riosa, però sta dicendo che Israele dovrebbe investire un po' meno nell'esercito e aiutare un po' i palestinesi per togliere agli estremisti qualche, diciamo, qualche appoggio, qualche sostegno in più da parte dei disperati. Questa è una cosa che è stata detta, in effetti è possibile, però Israele spende tanto nell'esercito, è inutile girarci intorno, perché comunque c'è una minaccia attorno a Israele, c'è sempre stata, ci sono state delle guerre, quindi è ovvio che spendono nell'esercito. Però quello che lei dice, io sono abbastanza d'accordo, non è privo di fondamento. Cioè, un investimento proprio da parte di Israele sui territori palestinesi. Non lo so se è una cosa lunare, in passato se ne era parlato forse. Vabbè, adesso però l'ordine del giorno è un altro, è quello delle bombe. Voleva dire qualcos'altro, Norberto? Ci salutiamo qua. No, direi che comunque sia, non è mai troppo tardi per dar da mangiare alla gente, anche quando vogliono le bombe. Sì, però sa cos'è? Che ci dovrebbero pensare anche le leadership palestinesi a dare a mangiare alla loro gente, e anche i paesi arabi che circondano la Palestina, che si riempiono la bocca di dichiarazioni sulla Palestina, e poi i palestinesi continuano a morire di fame a Gaza. E non è solo colpa di Israele, ecco, mettiamola così. Allora, dove andiamo? Andiamo con Sergio dalla provincia di Venezia. Buonasera. Buonasera. Prego. Il gioco di la notizia della settimana. Sì. I bronzi di Riace. Ecco. Non è questo. Non è questo che avevo pensato. Vabbè, la notizia è quella della proposta di Sgarbi di portarli da Reggio Calabria a Milano per l'Expo, e quindi in effetti notizia della settimana c'era. Non so perché sarebbe divertente. Sergio, ancora in onda? Ancora in linea? Sergio? Non ce l'abbiamo più. Va bene, sarebbe divertente. A lei sarebbe piaciuto questo spostamento? Ho capito. Vabbè, non era questo. Grazie. Al plurale, grazie. Sì, al plurale, perché in effetti era al plurale, ma non era. Grazie a lei. Non era questo. Che facciamo? Aggiungiamo un altro indizio? Sì, vai, così vediamo se qualcuno ci arriva. Allora, gli indizi fino ad ora sono stati che è una notizia divertente. Il personaggio è legato a una notizia divertente. È al plurale il personaggio. Quindi a questo punto possiamo dire che il nostro protagonista, i nostri protagonisti, terzo indizio, mostrano i denti. Quindi divertente, plurale, mostrano i denti. Una notizia di questa settimana. Pensate, cari ascoltatori, pensate. Mi raccomando, si vincono i biglietti per la mostra di Andy Warhol, quindi un momento da passare anche quest'estate in mezzo alla cultura. Gianfranco da Padova, buonasera. Sì, buonasera. Entro subito nel merito. Sì. Allora, lei deve sapere che io 20 anni fa circa scrivevo lenzuolate di parolacce e paroline per spiegare alla plebe l'utilità di mensilizzare i TFR. No, guardi Gianfranco, io mi sono già perso. Ecco. Mensilizzare allora, i TFR, parolacce, paroline, lei cosa vuole? No. Qual è l'oggetto del suo intervento? L'oggetto della mia telefonata è questo. Il problema disoccupazione si può risolvere unicamente con il solidarismo. Vale questa a dire? Questa è la mia teoria. Vale a dire che se le aziende, prendiamo un'azienda, l'Alitalia, tanto per non fare nomi, no? Quanti dipendenti avrà l'Alitalia in tutto? Lei lo sa? Non lo so, ve lo dica lei. Più o meno 10.000. Ecco. Possiamo dire 10.000? Adesso ne vuole espellere circa 2.000, 3.000, non si sa quanti, no? Allora io dico una cosa, naturalmente l'Alitalia ha l'esigenza di ridurre le sue ore di lavoro, però mi pare una enorme ingiustizia espellere la gente con i licenziamenti o con la messa in cassa integrazione con tutte le sue variabili. Secondo me la soluzione umanamente accettabile è il solidarismo, cioè che tutti i dipendenti a pieno regime si riducano l'orario di lavoro. Se l'azienda deve ridurre il budget della quantità di ore di lavoro, questo deve essere ripartito fra tutta la forza lavoro. Sì, ho capito. Questa è una delle teorie, Gianfranco, tra l'altro, che si sentono, ritornano, girano da anni. Lo stesso grande economista, credo che fosse Keynes, diceva che si potrebbe lavorare tutti di meno e stare tutti meglio. Non lo so perché poi questa ricetta però non si applica mai, forse non funziona. Però è così, gira, è nell'aria, è possibile. Lo applicano le aziende in crisi con una piccola riduzione dello stipendio, e che la proprio si chiama, come l'ha chiamata lei, solidarietà. Però è un'altra cosa. Diego dalla provincia di Pordenone, buonasera. Buonasera. Mi sentite questa volta, sì? Grazie per avermi richiamato. Perché avevamo già provato prima, era caduta la linea. Sì, ci scusi, sì, ma stasera abbiamo problemi con le linee telefoniche. Prego. Si scusa per le linee telefoniche, deve passare a fare una serie di inchini impressionanti. No, io parlavo, volevo chiamare per quanto riguarda le coppie di fatto. Sì. Diciamo che sentendo l'intervento della, della signora che giustamente diceva che loro sono dei fatti, non sono delle opinioni, alla fine, come giustamente diceva sempre la signora, c'è la possibilità di avere tutti gli stessi diritti di fronte alla legge. Quindi io sto pensando, mi è venuto da pensare che non c'è niente che mi faccia male, che mi renda torto nel fatto di avere una persona o una coppia che abbia idee sessuali diverse dalle mie, opinioni sessuali diverse dalle mie. Quindi lei è a favore, diciamo, dell'estensione di questi diritti, del riconoscimento delle coppie, sì? Sì, io credo che avere tutti gli stessi diritti, cioè avere la possibilità di crescere dei figli in maniera seria e sana, non sia una questione di gusti sessuali, sia una questione di essere capaci, di avere voglia di farlo, di sentirsi la responsabilità, sì, e di ottemperare questa responsabilità. Io credo che ci sia una maggioranza sempre più ampia, ora non lo so quanto numericamente, di persone in Italia che tutto sommato la pensano così. Su questo Francesca Vecchioni ha ragione, cioè quando poi ti trovi di fronte alle realtà concrete, molte barriere ideologiche o mentali che ci sono, diffidenze su queste questioni qua, poi decadono. Diego, voleva aggiungere qualcosa, visto che è riuscito a prendere la linea? No, io spero che non sia la paura della cosa diversa, che dopo chissà cosa mi succede, ma onestamente avere paura di cose che non fanno male ha più senso, invece avere paura di cose che si conoscono e si sa perfettamente che fanno male. Vuol giocare anche lei col personaggio della settimana? No. Io volentieri, ma io purtroppo vi posso sentire quando sono fuori dal lavoro, quindi ho saltato una serie. Ha saltato di, un pezzo, di va bene, allora niente. Comunque, allora niente. Buone cose, grazie di tutto quello che fate. Antonio da Siracusa. Buonasera. Buonasera. Signor Alessio. Prego. Sì, io ho chiamato per quanto riguarda la nuova legge di Stato che vuole cambiare Renzi. Sì. Parlando alcuni mesi fa con amici in piazza, dicevo che troverà tantissimo ostacolo, tantissimo opposizione, insomma. E infatti in questi giorni lo stiamo vedendo, anche franchi tiratori del PD. Però fare un Senato elettivo, non elettivo, nominato da chi? Dalla maggioranza del PD. È anche un'offesa al paese che l'ha dato credibilità e speranza. Ma non è nominato dalla maggioranza del PD, è nominato nel senso non elettivo, di non elezione diretta. Ma perché, scusa Alessio? Anche il Presidente degli Stati Uniti sì, non è eletto direttamente, ma è eletto dai grandi elettori. Allora questo non credo che tolga in termini di democrazia. Comunque, no, sì. No, lo stolce perché sì. C'è adesso nei comuni, nelle province, nelle regioni c'è la maggioranza alla sinistra e allora tutti i senatori sono tutti di sinistra e non c'è l'elettore che ha messo la firma o ha messo. Però sono eletti e possono cambiare, alle prossime elezioni invece di essere di centrosinistra potrebbero essere di centrodestra, quello che dice lei. Adesso c'è una maggioranza, sì, forse di regioni o di grandi città con congiunte di quel colore politico. In altri tempi è stato diverso, le riforme si fanno per tutti e per tutti i tempi, non bisogna guardare soltanto a quello che c'è adesso. Comunque qualcuno ha sollevato anche questo dubbio qua e lei si accoda. Va bene, grazie Antonio. Chi facciamo? Camillo da Roma? Sì, grazie. Buonasera. Buonasera, io intanto la ringrazio per avermi chiamato e poi le faccio i complimenti per la professionalità con cui conduce la trasmissione. Volevo riferirmi alla conferenza stampa di oggi del Presidente del Consiglio, nel corso della quale Renzi ha invitato gli italiani ad andare tranquilli in vacanza. Io per la verità... Sì, che poi per definizione questi inviti a stare tranquilli fanno sempre... Appunto. Esatto. Ecco. Comunque stai sereno, cioè. Letta, stai sereno, vedi che ride anche lei. Perché... Andrei più tranquillo e sereno in vacanza, sì, no? Se avessi la consapevolezza, sì, che la stessa determinazione che Renzi sta esprimendo nel condurre questa lotta, perché di lotta si tratta, per la riforma del Senato, la dispiegasse anche per la riduzione effettiva e sostanziale della spesa pubblica improduttiva. sensazione e consapevolezza che io francamente vedo un po' ogni tanto svanire. Intanto, tanto per dire una cosa, si era parlato di riduzione drastica delle auto blu, non se ne parla più come se le avesse già ridotte, ma comunque dice che quello non è il problema è sempre ben altro, no? Allora nel ben altro io vorrei che Renzi per esempio si impegnasse, cosa che non mi risulta che abbia fatto, per ridurre anche il numero dei deputati. Ieri o avantieri, adesso non ricordo esattamente, c'era stato un emendamento per ridurre il numero dei deputati, portare da 630 a 500, e con il concorso anche del PD questo emendamento è stato bocciato. Ma io crederei di più a Renzi se per esempio io vedessi che c'è una volontà effettiva di ridurre le spese del Quirinale. Capisco che non le può ridurre Renzi del Quirinale, è ancora col Quirinale, ha ragione. Sì, guardi, questo perché Quirinale il napoletano del 5%, altro 5% la Camera, la Boldrini, il Grasso, ma lì veramente si può pescare ma di brutto, dice, non è che si risolvono i problemi dell'economia italiana. Però dice lei, intanto si comincia. Va bene, io ho capito che Camillo da Roma non era tanto sereno, nonostante Renzi avesse invitato tutti ad andare in vacanza serenamente. Se non bastassero i guai che già ci sono a Pompei, adesso ci si mette anche un'asta su eBay, il noto sito dove si trova tutto in vendita, che dice questo: Ancient Roman Stone Wall Fresco from Pompeii. Io l'ho letto male perché l'inglese non lo pronuncio benissimo, ed è questo, un pezzo di affresco di Pompei in vendita su eBay, un'asta che poi forse è stata segnalata ed è sparita, una ennesima stranezza che riguarda la storia infinita di Pompei. Ne parliamo con il sovrintendente dei beni archeologici di Pompei, Massimo Sanna. Buonasera. Buonasera. Lei sapeva di questa, sì, naturalmente, di questa ovviamente, notizia, ma perché sapevo anche che non viene da Pompei quel pezzo. Ovviamente, ah, è già stato acclarato. Non esiste un confronto di quel genere, di quel tipo di pittura. Tra l'altro è un po' difficile capire anche il supporto su cui era, lì si veniva affacciato come un affresco di una domus, ma ovviamente il problema è che Pompei, come ben insegna, fa notizia. E questa è una buona notizia, perché se una cosa fa notizia vuol dire che è un brand, il brand si vende. Però poi, come ci siamo detti anche l'altra volta che ci siamo sentiti, il film su Pompei l'ha fatto il British Museum e noi niente, intanto. Oddio, noi niente, noi stiamo lavorando per farlo, anche qui io non parlerei più dei guai di Pompei. Sappiamo i problemi quali sono, parlerei delle criticità di Pompei. Vabbè, ora la parola la scelga lei, sì, però insomma sì, ecco, parliamo di criticità, ma che stiamo affrontando e su cui stiamo lavorando. Ora comunque il problema dell'informazione però è un problema fondamentale. Ecco, no, però, le faccio un esempio. Ieri mattina ero sulla prima pagina del Mattino con qui mi si attribuivano delle cose che non ho mai fatto, per esempio di avere un dossier segreto. Ah, l'ho letto, il dossier shock di Osanna. Adesso parliamo anche di quello, perché in realtà non è un dossier shock, ma sono cose che riguardano i ricorsi per quanto riguarda gli appalti. Avevo detto in una pubblica conferenza davanti al commissario, ma non avevo denunciato niente, ho detto solo che alcune gare erano interrotte per via di ricorsi. Ecco, però allora facciamo ordine, l'informazione, cerchiamo di essere precisi. Allora, intanto questa asta su eBay, io so che i carabinieri stanno indagando, le risulta? Sì, come no, cioè so che è passata al nucleo tutela, quindi sicuramente ci sarà un'indagine e ci auguriamo. Potrebbe essere anche uno scherzo, che ne so. Anche quello, sì. Però potrebbe anche essere. Però a Pompei ce ne sono tanti di scherzi che succedono. Questo è No, infatti, scherzi, ma ci sono. Scherzi anche pesanti, perché il problema dei furti, per esempio, questo esiste. Il problema di furti esiste, nel senso ho visto anche in passato, rivedendo anche la rassegna stampa del passato, ben prima del mio arrivo, c'erano stati vari episodi. L'ultimo che è successo appena mi sono insediato, quello dell'affresco, devo dire anche lì più che un furto è veramente un'azione, uno scempio, cioè qualcuno che ha voluto come dire, ulteriormente gettare fango su Pompei, diciamo così. Però non era certamente un furto d'arte, perché l'affresco era lì rovinatissimo, era stato trappato in maniera molto maldestra. Però insomma, mille inchieste, mille immagini, abbiamo visto che in effetti diciamo, la possibilità di andare a prendere un pezzo è passare inosservato, questo purtroppo, vista l'immensità anche degli scherzi, questo va detto. Però, però è possibile che questa cosa vada avanti? Cioè, voi che contromisure ha preso il sovrintendente Osanna da questo punto di vista? Allora, ovviamente non sono solo io il responsabile, sì, grazie a Dio, non sono da solo, e quello che si sta facendo ovviamente insieme al Ministero, quello che si sta facendo insieme al generale Nistri, del grande direttore certo, generale del grande progetto Pompei. Però... innanzitutto c'è a bando un nuovo servizio di una nuova fornitura di videosorveglianza, che ovviamente si va ad aggiungere a quella già esistente. Attualmente la videosorveglianza riguarda soprattutto la zona perimetrale, cioè permette di monitorare eventuali ingressi o uscite dal sito, però non è diffusa capillarmente all'interno. Allora si sta potenziando, e questa è già a gara, la videosorveglianza anche all'interno, e questo sarà sicuramente... Cioè ci sarà un sistema più efficace di quello che c'è adesso, più di videosorveglianza. Di quello che c'è stato, sì, e poi si è, anche se questo è a bando, un nuovo sistema di illuminazione anche notturna, sì, di tutto il sito, e soprattutto di nuova recinzione. Quella della recinzione attuale è, devo dire, non del tutto adeguata, per cui proprio ci sarà una nuova recinzione che proteggerà il sito molto più di quello che sarà attuale. E allora vediamo, speriamo sicuramente. Senta, a proposito di... succederà, sì, sempre qualcosa. Oggi in un magazzino ho trovato, pensi, tutti gli oggettini che restituiscono i turisti dagli anni 50 in poi. Pezzettini di Pompei. C'è una tesserina di mosaico, un frammento di tegolina, tutto, perché poi vengono restituiti perché pare che porti sfortuna, sa? Ah, qui si è diffusa questa notizia, fortunatamente, esatto, per voi, quindi adesso quindi tutti che restituiscono i pezzi, sì, di Pompei. Senta, la questione che diceva lei, che qualche giorno fa, ieri, forse i titoli del mattino, il dossier, sì, shock del sovrintendente di Pompei, che dice rischiamo di non riuscire a finire il progetto. In realtà lei ha sollevato una questione, però sui TAR. Ma no, le spiego, non ho sollevato niente io, tutto deriva dalla conferenza pubblica del 17 luglio, sì, dove a presenza del commissario Hahn, del ministro Franceschini, il sottosegretario Delrio, a me era stato dato il compito di presentare lo stato dell'arte del grande progetto, e il generale Nistri ha presentato l'action plan. Allora, nella mia relazione ho presentato il punto, lo stato dell'arte, e ho detto una frase: due progetti, la Regia Settima e la Casa della Fontana Piccola, sono attualmente fermi, non sono partiti perché c'è stato un ricorso del secondo giudicatario sul primo, e il TAR ha dato la sospensiva. Quindi ci aspettiamo ottobre perché ci sarà il responso. Ecco, ho detto questo. E dunque, di qui a denunciare, sì, il sistema giudiziario mi sembra un po' nefasto. Però ecco, cioè, la sostanza è questa, perché i titoli poi sono forzature, ma sono anche delle verità secche che ci costringono a fare attenzione a una determinata questione. Cioè, tra i motivi per cui c'è il ritardo nei lavori del grande progetto Pompei, progetto Grande Pompei, è anche quello dei ricorsi amministrativi. Perché ci sono questi ricorsi? Chi è che ha fatto ricorso al TAR? Perché il TAR interviene in queste questioni, per esempio? Uno si potrebbe domandare, un cittadino. Beh, perché allora nel caso in cui chi ha avuto la giudicazione, il secondo arrivato, non sostiene di essere stato valutato, estromesso per non in maniera corretta, appunto, perché magari l'esclusione è stata fatta sulla documentazione presentata, ossia che non aveva i requisiti che il bando prevedeva, fa ricorso e si blocca tutto, e il TAR può dare la sospensiva. La famosa sospensiva. Ma allora è vero quello che diceva qualcuno tempo fa? Bisognerebbe eliminare il TAR in Italia per far ripartire il paese, l'economia, forse? Credo che fosse Prodi uno di quelli che l'aveva detto. Però in certo delle garanzie ci vogliono anche per chi, perché siccome siamo tutti umani, sì, quindi si può sbagliare. Però mi scusi, cioè, una garanzia ci vuole, d'accordo. Però non so come dire, cioè, prendiamo il caso delle elezioni regionali in Piemonte, lei non c'entra nulla, ma lì il TAR è arrivato, no, almeno questo, perché sennò il sovrintendente di Pompei sarebbe onnisciente, no? Però lì dopo 4 anni è arrivata la risposta, è una follia. Però ci sono delle due l'una, o si dà una risposta subito, oppure tanto vale eliminarli questi ricorsi. Questo è giustissimo. ma infatti le misure acceleratorie prevedono proprio una risposta entro 30 giorni del TAR adesso. Queste erano gare partite prima delle misure acceleratorie, per cui la risposta sarà, ci sarà il, diciamo, il verdetto, chiamiamolo così, sarà ad ottobre, però adesso è previsto che siano entro 30 giorni. Quindi, ecco, queste misure acceleratorie, queste è fondamentale. Sarebbe bello che fossero applicate a tutto, diciamo, i campi in cui si applica il TAR, non solo a Pompei, perché servirebbe. Senta, l'altra volta che ci eravamo sentiti, lei era fresco di dichiarazione, aveva detto dobbiamo andare a accelerare perché qua coi tempi siamo a rischio per sfruttare i famosi fondi europei, eccetera, eccetera. Certo. Adesso questo tempo l'abbiamo recuperato, come la vede, o siamo ancora a rischio? Oddio, c'è stata un'accelerazione significativa. Sono partiti molti cantieri che non erano ancora partiti appena mi sono insediato, e soprattutto c'è stata la firma dell'Action Plan il 17 luglio con delle misure acceleratorie che sono appunto state previste anche non da noi, ma a livello appunto governativo. Adesso con queste misure acceleratorie non ci auguriamo di procedere più rapidamente. Tra l'altro, fra queste c'è anche dovrebbero finalmente arrivare questi 20 nuovi progettisti che ci dovrebbero aiutare a chiudere rapidamente tutti i progetti ancora da mandare a bando, e a questo punto spero che riusciremo a spendere i soldi che ci sono stati assegnati. E lo speriamo anche noi con lei. In bocca al lupo al sovrintendente di Pompei, Massimo Osanna. Grazie. Buona estate. 800 24 00 24. Riprendiamo con gli ascoltatori fra poco anche qualche titolo di telegiornali. Andrea dalla provincia di Ancona, buonasera. Salve, buonasera dottor Maurizio, bentornato. Senta, velocissimo. Sì. Allora, è successo questo. C'era una manifestazione per la Palestina sabato scorso, sì, a Urbino in piazza. Io sono fieramente filo israeliano, non sono ebreo, ma ho le mie convinzioni che ho maturato negli ultimi 30 anni della mia vita, studiando anche un po' la storia di quello che è successo in Palestina. Ho fatto l'errore probabilmente ma non è una provocazione, di mettere sul mio profilo Facebook la bandiera di Israele. Questo, sì, mi è costato un po' di amicizia di Facebook, ma posso farne a meno. Ma quello che è stato più, come dire, difficile da mandare giù è stato quello che è successo il giorno in cui mi hanno invitato questi amici di sinistra urbinati che organizzavano la manifestazione pro-palestina. Sì. Ci volevo andare per sentire gli argomenti, no? Di chi, sì, la vede diversamente da me. Allora, vabbè, a parte qualche minaccia di qualche arabo italiano, arabo, come dire, immigrato in Italia, che mi ingiungeva di non farmi vedere, però poi alla fine, insomma, non è successo nulla, sono stato lì e sono stato a sentire. Il giorno dopo è arrivato un commento pubblico su Facebook di un altro di questi ragazzotti un po' barbarici, evidentemente, se questi sono i modi, in cui mi ha aggiunto testualmente, posso dire, sciacquati dal cazzo con quella bandiera di merda, non ti far vedere più su questo forum. Mm. Io gli ho risposto anche più maleducatamente, se possibile. Sì. E la cosa che non va bene è che poi mi è arrivato un messaggio di questo tenore: stai attento, ti bruciamo la casa, sai dove, sappiamo dove abiti. Vabbè, quando si va sul piano delle minacce è sempre sbagliato. Allora, tragica, che non possiamo definire altro che tragica. Sul fronte interno, il Senato, dopo gli incidenti di ieri sera, questa mattina tensione e l'uscita, un vero e proprio Aventino minacciato e attuato almeno per qualche ora dalle opposizioni, dal Movimento 5 Stelle, dalla Lega e anche da SEL. Poi uno sforzo di mediazione, ma certo la situazione resta difficile, molto difficile, come vedremo. Anche se Renzi convoca nel pomeriggio una conferenza stampa e dice che si va avanti, si tira dritto e non c'è nessun rischio. Vabbè, per questo è Enrico Mentana, il pistolotto che precede i titoli dei telegiornali della 7, e volevamo farvelo sentire perché sono proprio gli ultimi commenti strettissimi dell'attualità. Avevamo Andrea dalla provincia di Ancona in onda, c'è ancora? Sì, ci sono, grazie. Volevo farle una domanda. Non crede però, detto che ognuno può esprimere liberamente le opinioni che... sembra che non sia così. No, su questo le do ovviamente solidarietà mia personale per quello che conta, ed è sbagliato minacciare la gente, è una follia, ci sono degli estremismi che vanno censurati, però le chiedo se anche lei forse non ha commesso un errore, mettere la bandiera in un momento in cui tutti chiedono il cessate il fuoco, la tregua, insomma il disarmo. Palermo, andare ad esprimere una posizione di parte in questa situazione, a cosa serve secondo lei, Andrea, se non a aumentare questa escalation? Glielo chiedo. Ma no, guardi, è chiaro che da questo punto di vista ci potrebbe essere un senso quello che lei dice, però io non accetto in uno scontro come quello davanti da 70 anni, non accetto che ci sia una parte come quella israeliana, che certamente fa degli errori, a me non stanno sempre simpatici i sionisti del mondo, eccetera, in cui una quota di popolo europeo debba avere paura di mostrarsi con i suoi simboli religiosi in Italia, in Francia. Io ho amici ebrei che stanno a Milano, che stanno a Roma, e quella la mia amica, però la bandiera, no, scusi, però la bandiera di, sì, la bandiera di Israele di vedere in giro con la kippah. Sì, però lei allora, scusi Andrea, lei ha fatto, secondo me fa una confusione, però mi scusi, lei ha detto che ha messo la bandiera di Israele sul suo profilo Facebook al posto della foto. Certo, della mia faccia. Non è un simbolo religioso, questo è il simbolo di un paese in guerra con un altro paese. Io le dico, poi se arrivano le minacce, non è che le minacce sono sbagliate, lei ha solo espresso la sua posizione, però a cosa serve esprimere una posizione di parte nel momento in cui chiediamo a loro di fare la tregua, cioè di cominciare a ragionare e di non esprimere posizione di parte? Beh, mi dispiace, ma voglio dire... Non c'entra nulla la libertà religiosa in questo, No, ma difatti non c'entra nulla. Cosa vuoi che le dica? Ho una mia convinzione che è di tipo politico. E non si può risolvere la questione in due minuti per radio, perché sarebbe... Va bene, allora ci salutiamo qua, grazie, buona serata. Però grazie. I razzi non vanno bene, capito? Quindi quella era la mia posizione. Quali razzi non vanno bene, scusi? Però quello che vorrei dire, non vorrei che fosse l'inizio. Scusi, quali razzi non vanno bene, italiano? Andrea? Quali razzi non vanno bene? Andrea? Non ha risposto. Allora, titoli del TG1, va? Via libera al Senato dei 100, mediazione del ministro Boschi con SEL, Movimento 5 Stelle e Lega abbandonano i lavori dell'Aula. Renzi sulle riforme, bene il clima di dialogo, nessuna stangata in arrivo, ma non garantisco l'estensione del bonus da 80 euro. Si dietiada le proposte di Alitalia, servono approfondimenti, ma l'accordo è più vicino, parte la mobilità per oltre 2.000 lavoratori. Via libera la fusione Fiat Chrysler, dopo 115 anni l'azienda lascia Torino, Elkan, resteremo protagonisti in Italia, Marchionne, puntiamo in alto. Gaza, subito infranta la tregua umanitaria, scambio di accuse tra Hamas e Israele, ancora decine di morti palestinesi, rapito un soldato israeliano. Fuori il tifo violento dagli stadi, pronto il decreto con le nuove regole, Daspo fino a 8 anni, la morte di Ciro Esposito, altri 4 romanisti indagati. Partenze estive decimate da maltempo e crisi, calo vistoso del turismo balneare fino al 70% in meno, la flessione più forte in Campania, poi Marche, Liguria e Toscana. 800240024, Daniele da Pavia, buonasera. Sera, volevo rispondere al gioco. Sì, il personaggio della settimana, chi è secondo lei? Orlando Bloom e Justin Bieber. Ah, perché? Per quale motivo? Si sono azzuffati in discoteca e devo dire che Orlando Bloom non mi stava particolarmente simpatico, ma è salito di molti punti perché... Ah, perché le ha suonate a Justin Bieber? Ho capito. Beh, diciamo, la notizia può essere divertente. È il plurale perché sono in due, in effetti ci poteva... hanno pure mostrato i denti, in il terzo indizio, perché se le sono date e quindi... Però non è questa, Daniele, anche se lei comunque è riuscito a arrivare, non dico vicino, perché non è neanche vicino alla risposta, però ha trovato una risposta plausibile. Bravo, Daniele. Grazie. Buona serata. Io non sapevo nulla di questi due che si erano azzuffati in discoteca. Voi in redazione lo sapevate? Sì? C'è uno su tre, va bene. Facciamo Marco da Milano, buonasera. Buonasera, anch'io sono intervenuto per giocare appunto al gioco del personaggio, sì, o dei personaggi in questo caso. E niente, allora la mia interpretazione è personaggi plurale, mostrano i denti e notizia divertente, vuol dire io pensavo alle donne turche. Bravo Marco! L'hai ricostruita proprio bene. Qual è la notizia, diciamolo, che riguarda le donne turche? La notizia è quel selfie collettivo che è apparso, diciamo, nel numero di qualche decina di migliaia in pochissimo tempo, forse sui maggiori social network, su Twitter mi pare, in particolare, come risposta. Lei non è su Twitter, lei non è molto avvezza a Twitter, l'ha detto in un modo come uno che non lo usa. No, cioè, sono, diciamo così, iscritto come penso molti, però non pratica. Non ho ancora capito tra virgolette come funziona la metodica. Sì, non esatto. È un praticante di Twitter, però ha capito che in effetti la notizia riguardava anche molti social network e Twitter, il fatto che sono state pubblicate sui social network queste foto delle donne turche che ridevano dopo che il vice premier turco aveva detto le donne in pubblico non devono ridere perché è peccaminoso. E loro se ne sono infischiate. Era un invito, ecco, a mostrarsi, diciamo così, più serie vestendo un po' così i panni della, adesso non, senza andare allo scontro di culture, però del praticantismo islamico. Marco, lei ha vinto i biglietti per la mostra di Andy Warhol, che è a Roma, se le capita magari di andarci, oppure se le vuole regalare a qualcuno che è in quella città, oppure può essere un'occasione anche per andarci. Grazie. Complimenti, grazie, che dire. Grazie mille, salve. Allora, andiamo avanti sempre con gli ascoltatori e direi di fare Giuseppe dalla provincia di Bari, buonasera. Buonasera a lei, dottore. Niente, io volevo intervenire sulla retorica dell'intervento iniziale su quanto riguarda, non so chi l'ha fatto, giornalista o vale, sulla la retorica del volantinaggio che fanno per quanto prima di bombardarlo delle SMS, ma io mi domando e dico, ma quando hanno bombardato l'ospedale ONU o qualche altro ospedale ultimamente, hanno fatto il volantinaggio in varie lingue o messaggi in varie lingue? Cioè questa è pura retorica, fare retorica su un bombardamento così discriminato su persone che stanno lì malate, questa è una retorica che io non accetto assolutamente. Guarda, io credo, io non lo so, è difficile, stavo per dire credo che non sia retorica e che, però mi rendo conto che forse non abbiamo neanche informazioni sufficienti per dire un'opinione, però credo che Israele è un paese, mi verrebbe a dire un paese serio, al di là di tutto non credo che sia una retorica addirittura quella dei volantini, probabilmente se non ci fossero stati i volantini o se avessero voluto radere al suolo Gaza avrebbero completamente raso al suolo Gaza, non è quello che vogliono fare almeno per ora, però ci sono finite troppe vittime civili, su questo non c'è alcun dubbio. Sì, ma farla passare così comunque è una retorica, mi scusi, farla passare così in come si dice, no? Come se fosse una cosa intelligente da parte del, come bombardano un ospedale ONU ed è intelligente mandare i volantini? No, mi scusi, io non ci sto, non condivido. No, io non ho detto che è intelligente, però rifiuto l'interpretazione che sia una cosa di propaganda, questo non credo, però potrei sbagliarmi. Non ho detto che è una cosa intelligente, ho detto che non è. No, non credo sia propaganda. Ma non lei, mi scusi, chi ha fatto quell'intervento, non so, all'inizio ha messo degli stacchi di qualcuno che ha detto questo. Sì. No. In quel caso era la voce di Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica di Roma. Va bene, Giuseppe, è giusto che lei abbia fatto il suo intervento su questo. Grazie. Buona serata. Andiamo con Renata da Palermo. Buonasera. Pronto? Sì, Renata, prego. Sì, buonasera. Io sono un'ascoltatrice abituale di Radio 24 Ore, però mi piace molto, naturalmente, se non l'ascolterei. Però quando sento Roberto Napoletano, che con voce tragica dice che ha passato 3 anni da Trento a Pantelleria in viaggio e ha visto che l'Italia soffre, mi vengono certi nervi, gli consiglierei di passare il tempo diversamente, perché il problema italiano numero uno è un'evasione fiscale gigantesca, totale, sfacciata, disgustosa. Io vivo tra Palermo e Milano. Sì, ma che c'entra Napoletano con l'evasione fiscale? Non è perché le piccole imprese soffrono, piangono, le piccole imprese, gli artigiani non vogliono pagare. Ma guardi che quel libro lì non è che parla solo delle piccole, non mi faccia difendere Napoletano, non me ne frega nulla. Parla di tutto, non solo delle piccole imprese. Ecco, qua soffrono soltanto lavoratori a reddito fisso e pensionati, e le assicuro che io, avendo 2 città di confronto, a confronto continuo, vedo che ci sono delle categorie che secondo me non solo non conoscono le ricevute fiscali, ma io quasi penso che non hanno neanche la partita IVA, risultano disoccupati punto e basta. muratori, imbianchini, falegnami, idraulici, elettricisti, meccanici, venditori ambulanti, lavanderie, stabilimenti balneari, internet point. Sì. Cioè c'è una lista infinita, infinita. A botte di 60 euro l'ora per una prestazione qualunque in casa. E a questo punto, secondo me, la grande riflessione è quella di vedere se ci sono modi per uscire da questo. Ma credo che l'intento del libro fosse questo, non altro. Guardate, io non l'ho letto. Le tasse sono, e anzi, si lamentano, piangono miseria. Ma chi si lamenta? Chi? Scusi, Renata. Tutte queste categorie. Quali categorie? Che le ho elencato, e ti aggiungo anche molti liberi professionisti, non quelli che lavorano con società estere. Però se lei mi sta chiamando per dirmi che i liberi professionisti non emettono, non fanno, evadono, allora questo però... È un fenomeno gigantesco. Va bene, va bene, Renata, questo è il suo punto di vista. Però questo, anche per dare delle proposte bizzarre. Quali? Ne faccia una e poi ci salutiamo. Una, quella di togliere la tassazione sul reddito e metterla solo sui consumi. Va bene, questa è una cosa di cui si discute, non nel senso estremo quella proprio lei, ma di aumentare quella sui consumi, abbassare quella sui redditi, e vede che questa è una ricetta che l'ha detta anche Confindustria, credo, comunque è una ricetta che sta sul tavolo di molti economisti, non è così bizzarra la sua ricetta. Venerdì, molti stanno per andare o sono già andati in vacanza, beati loro. Allora anche noi vogliamo dare un consiglio per la vacanza. Cosa ci può essere di più avventuroso che passare tutta l'estate sul divano? Può essere avventuroso se il divano non è quello di casa nostra, ma quello di casa degli altri. C'è un libro che si chiama In viaggio sul sofà, la prima guida non ufficiale al couchsurfing, credo che si pronunci così, che parla proprio di questo. Noi abbiamo convocato una delle due degli autori, Elena Refraschini. Buonasera Elena. Buonasera, ciao. Buonasera a voi. Autrice, ed è pronunciato giusto. Insieme a Davide Moroni del libro In viaggio sul sofà. Ho pronunciato giusto couchsurfing? Di cosa si tratta? Si tratta innanzitutto di un sito web che connette 7 milioni di viaggiatori in tutto il mondo e che permette alle persone o di essere ospitate a casa dei membri, che sia appunto su un sofà o in una stanza, su un normalissimo letto, e sia appunto di ospitare oppure di partecipare a eventi nelle varie città in tutto il mondo. Ma si paga per andare sul sofà di qualcuno, no? No, è assolutamente tutto gratuito. E cosa si riceve in cambio? Come ci si sdebita da questa ospitalità? Ci si sdebita in nessun modo ufficiale in realtà, nel senso che è tutto basato su uno scambio culturale, quindi io sto a casa di una persona e poi se avrò la possibilità potrò ospitare qualcun altro e quindi insomma trasferire questo beneficio a un altro membro della comunità. Una rete di gratuità, se vogliamo dirla con una parola importante. Esatto. Confermo però, per averne parlato con anche dei colleghi della redazione, che qualcuno sul divano c'è stato, cioè una cosa che funziona, non è solo un gioco. Diciamo così, di un social, l'ennesimo social network, funziona. Tu sei andata per esempio dove, Elena? Allora, la mia prima esperienza l'ho avuta in Cina. Ho incontrato diverse persone lungo il corso della Transiberiana e poi la prima vera esperienza di ospitalità a casa di qualcuno l'ho avuta in Cina. Però poi ho viaggiato anche in tutti gli Stati Uniti grazie a questo metodo. Ma sempre sul divano o vale anche il letto? Vale anche il letto. Può capitare però, davvero di tutto. Però è meno romantico, bisogna... No. Mi dipende, dopo 4 mesi di viaggio il letto va un po' meglio. Ci sarà meno romantico, ma va meglio. Cioè tu hai viaggiato in Cina e negli Stati Uniti andando esclusivamente su letti e divani altrui, esatto, o anche qualche albergo? No, mi è capitato qualche albergo, ma... Sincera, onesta, sì. Elena. Sì, no, certo, diciamo il 95% sempre su divani. Ah però, e quanti giorni di vacanza hai fatto così? Tipo negli Stati Uniti, allora, per esempio. Allora, negli Stati Uniti 3 mesi. Mettendo insieme tutte le esperienze, direi un 6 mesi più o meno. Cioè 3 mesi solo negli Stati Uniti, il 95%, quindi mettiamo 2 mesi e mezzo, esatto, o anche di più, sempre su letti e divani offerti, esatto, tramite questa rete. Sì. E non hai mai incontrato qualcuno che ti abbia messo voglia di non farlo? Cioè qualcuno ti sei spaventata? No, no, assolutamente mai. No. Anche perché è un metodo molto sicuro, nel senso che si basa su un sistema di referenze. Per cui io tendenzialmente, che sono donna e viaggio da sola, non starò a casa di qualcuno che non ha referenze, semplicemente perché non posso sapere che è. Cioè le referenze sono i commenti, sono delle recensioni. Le recensioni, esattamente come per i ristoranti o per gli alberghi su TripAdvisor, esatto. Mettiamo. Sì. Esatto, che vengono lasciate dalle persone che sono state a casa di quella persona o che l'hanno conosciuta nelle più svariate occasioni. E le recensioni ci sono anche sull'ospite, cioè su di te in questo caso? Esattamente. Tu hai letto qualcosa che ti riguardava? Sì, nel mio profilo, se si va a vedere il mio profilo sul sito, ci sarà una trentina di referenze positive e questo ovviamente... E cosa dicono di te? Cercare... Ma sembra che me lo dico da sola. Se hai delle abitudini particolari, che ne so. No, certo, si dice che sono una buona ospite, che non sporco casa, un po' come gli animali, che non sporco casa, che sono una persona curiosa, che non russa. Mi piace imparare altre lingue o entrare in contatto con altre culture, insomma, si cerca di mettere in evidenza quelli che sono i lati del carattere e del comportamento che possono aiutare la prossima persona nel selezionarmi o meno come ospite. Ma chi spinge di più per fare andare avanti questa rete? Le persone come te che hanno voglia di andare in giro e che quindi trovano modo di risparmiare, beata te che ci hai pensato e sei riuscita a fare, oppure le persone che magari sono più sedentarie o per vari motivi non possono andare in giro e hanno voglia di avere qualcuno in casa, un po' di compagnia, che tipo di persone hai trovato? Direi un po' di tutto, c'è un buon mix. Ovviamente ci sono tantissime persone che lo usano per viaggiare, non soltanto giovani, ecco, voglio sottolineare questo, nel senso che c'è davvero di tutto, ci sono anche famiglie magari addirittura che si sono formate grazie a Couchsurfing, che hanno figli e che adesso viaggiano con l'intera famiglia presso altre famiglie, perché vogliono che i figli entrino in contatto con bambini di altri paesi. C'è davvero di tutto. Ci sono poi paesi magari che hanno delle restrizioni dal punto di vista degli spostamenti, come l'Iran, e lì le persone lo usano più che altro per ospitare, perché per loro è un modo per entrare in contatto con qualcuno che altrimenti non riuscirebbero mai ad incontrare. Ma ti è mai capitato che qualcuno ti chiedesse, che ne so, un po' per contraccambiare l'ospitalità che ti veniva data, di accompagnarla a fare la spesa o di fare qualche servizio, qualche cosa? Che cosa ti hanno chiesto? Favore, anzi in realtà sono io che offro, siccome sto a casa di una persona e questo influisce naturalmente sulla vita di quella persona per i giorni in cui io starò lì, che di solito sono comunque pochi, sono due o tre o quattro, di solito mi offro io magari di cucinare o di aiutare in vario modo, dipende. Per esempio quando ho ospitato un ragazzo dagli Stati Uniti, siccome sono un insegnante di inglese, gli ho chiesto se voleva venire con me a fare lezione perché parlasse un po' con i miei studenti. Ed è venuto? Stava imparando. Certo, sì, è venuto e si è divertito. Ah, sì, che meraviglia. Sì. Si può contraccambiare in qualsiasi modo, e però ovviamente non c'è niente di scritto. Quanti giorni si può stare a casa di qualcuno con questo sistema? Allora, non c'è niente di fisso. Diciamo che la permanenza standard è di 3 giorni. Poi naturalmente ci si può accordare se si vuole rimanere di più, se entrambe le parti si sono trovate particolarmente bene, allora la permanenza può essere estesa anche a livello indefinito. Ecco. Ma le aree geografiche coperte sono tutte, cioè in Italia si trovano in tutte le città delle persone che aderiscono alla rete? Più o meno in tutte le città, sì. Ma che meraviglia. In tutto il mondo, sì. Bene, va bene. Viaggiare così. Ci hai incuriosito, Elena, molto. Sì. E questo... sto per partire ora per i Balcani. Ah, adesso proprio stai per partire? Sono in viaggio, sì. Sì. Sempre col couchsurfing, cioè sul divano di qualcuno. Esatto, sì. Fantastico. Sarà una nuova avventura. Ti spiegano, cioè ti dicono prima che a cosa vai incontro, cioè se è divano o se è letto, te lo dicono, sì. Sì, certo, c'è una sezione apposita in cui si deve descrivere se si è persone che ospitano lo spazio. Cosa si offre? Che sarà, esatto, e soprattutto bisogna specificare se questo spazio è condiviso con altre persone o se è uno spazio privato, ecco, perché per qualcuno questa è un'informazione chiave nel decidere se stare da quella persona oppure no. Benissimo, grazie, in bocca al lupo Elena Refraschini per la tua estate, per i tuoi viaggi. Il libro grazie. È In viaggio sul sofà, Morellini Editore, se vi interessa, se vi abbiamo incuriositi. 800 24 00 24. Riprendiamo a sentire ancora un po' di interventi degli ascoltatori e andiamo con Antonio che ci chiama da Padova. Eccomi qui, grazie. Eccoci qua. Io... anche noi, Antonio. Buonasera a tutti. Io ho chiamato per fare un tratteggio della figura di Renzi, Licio Renzi, però l'ascoltatore... Licio Renzi? Sì, Licio Renzi. Sì. Cioè Licio, sì. Gioca sul nome Licio Gelli? Assolutamente. Perché secondo lei Renzi che cos'è? È l'epigono di Licio Gelli? C'è scritto PD e si legge P2. E il tratteggio avrei voluto farlo e magari ci provo anche, però vorrei prima dire che l'ascoltatore che inneggia all'azione che secondo me se io fossi un giudice del tribunale internazionale condannerei per crimini di guerra quello che sta compiendo Israele, e c'è da capire se per volontà, se lì c'è democrazia, quindi se i responsabili sono gli stessi cittadini o se è l'oligarchia plutocratica al potere, ovvero i coloni. Quando lui dice la violenza però del genocidio in corso, tace quell'ascoltatore lì. L'oligarchia oligarchia plutocratica, il ricco capitalismo, no? Che sì. Appunto, credevo appunto che non avrei mai più sentito questa espressione se non in qualche film di Nanni Moretti. Invece no, la plutocrazia fu anche menzionata dal grandissimo cardinale Tettamanzi, che disse la telecrazia e la plutocrazia portano inesorabilmente alla cancellazione della democrazia. Sì, però qua Tettamanzi non parlava di quello che parla lei, cioè parlava in generale dell'esaltazione della ricchezza e della televisione. Un'altra frase di Tettamanzi. Sì, vada. Ecco. Lei è un estimatore di Tettamanzi. La guerra è la madre del terrorismo. Io chiamo oltre, io definisco genocidio quello che è in corso. Da decenni, quando l'ascoltatore fa riferimento poi ai razzetti, ma prima che inviassero i razzetti, perché li hanno tenuti per decenni con i calcagni sulle teste dei palestinesi? Se lo domanda, che risposta dà? Allora, io torno su Matteo Renzi. Ecco, torniamo qua, sì, che è meglio. Che quello che sta combinando, sì, e che il successo che corrisponde comunque al 20%, ovvero 8 elettori su 10 gli hanno negato la fiducia, quel 40% corrisponde a circa il 20%. Ma di cosa sta parlando? Cos'è questo 20%, 40%? Di cosa parla? Ma si continua, e tutti dicono ha preso il 40%. Questo 40%. Parliamo delle elezioni europee, va bene, adesso ho capito. Sì. Che poi ha significato che lui ha ottenuto, sì, dopo mesi e mesi di campagna elettorale, a nostre spese, usando i mezzi pubblici soprattutto per cose interne del PD, per reprimare. Usando i mezzi pubblici sembra che abbia preso l'autobus per andare in campagna elettorale. Cosa? I mass media pubblici, sì, che noi paghiamo li hanno usati per cose interne del PD. No, scusi, i mass media pubblici che noi paghiamo, a cosa si riferisce? Scusi. In particolare la RAI, io condanno disprezzo questo. Allora, diamo i nomi alle cose, dica la RAI, non i mass media. La RAI. Pensavo di averlo letto. Quindi lui per mesi, sì, e poi quello che sta combinando oggi, no? Chiaramente censura totale, quando io chiamo a prima pagina la mattina per intervenire, non c'è verso, perché io faccio le mie critiche, lì bisogna dire prima cosa vuole parlare, eccetera. Allora, però quindi lui sta portando l'Italia al macello, sì, alla catastrofe, lui lo sa. Guardi, questo da tutte le parti bisogna dire l'argomento su cui si vuole intervenire, per dare un'idea, sì, alla redazione, sì, certo, se lei è connesso con quello di cui stiamo parlando oppure no. Voi mi avete chiamato, sì. Ecco, voi mi avete chiamato, io volevo... Ora, io non lo so se il fatto che l'abbiamo chiamata diciamo va a nostro favore oppure no, cioè se... Antonio... Volevo criticare, sì, Renzi, che al suo confronto è meglio il sindaco di Padova, no? Però appunto lui sa che porterà... Il sindaco di Padova chi è? Bitonci. Non è che è stravera per Bitonci, però. Ma io, il punto è che Renzi. Bitonci, lo sa. Che quello che voleva mettere, cos'era l'ultima cosa? Il crocifisso di nuovo? No, non mi ricordo. Su quello sono in disaccordo totale, sì. Perché secondo me è una violenza. Imporre il crocifisso negli ambienti pubblici, chiaro, no? Ecco, però il fatto che Renzi sa quello che sta combinando, ed è per quello che sta predisponendo la cancellazione totale, i principi cardine della Costituzione vengono cancellati, stravolti, così come venne fatto nei decenni in cui precedettero poi la dittatura di Mussolini e il nazismo. Siccome lui lo sa, con questo strumento, cancellando qualunque spazio di democrazia, lui, una volta che gli elettori, prima anzi che gli elettori si renderanno conto di quello che gli sta combinando sangue e merda, lui tornerà al voto. Antonio, guardi, io l'ho fatta parlare perché lei ci mette carica, energia, entusiasmo e mi sta simpatico, però adesso basta, perché ha messo insieme tutto il contrario di tutto. Comunque grazie, buona serata. Che facciamo? Abbiamo ancora tempo? Sì, per un ascoltatore. Roberto da Monza, buonasera. Allora, per fortuna non sono la guida, perché l'ultimo... se no andava a sbattere. Ah no, sì. Esattamente. Ecco, io volevo riprendere il discorso che ha fatto la ragazza sul couchsurfing, sì, che ha menzionato l'Iran, che è un paese bellissimo, con gente molto cordiale, e invito tutti ad andarlo a visitare, perché resteranno tutti soddisfatti. Comunque io chiamavo in merito alla questione israelo-palestinese che si allaccia, guarda caso, all'Iran. Sì. C'è una disinformazione mediatica fuori da imbarazzante, che porta a, come l'ultimo ascoltatore ha appena detto, i razzetti, quello che Hamas lancia su Israele. Cioè Hamas ha cercato la provocazione di Israele in modo, perché Hamas fa parte della dei fratelli musulmani, un'organizzazione che ha mire globali, ed è terroristica come organizzazione, non sono fratelli. Il loro obiettivo è islamizzare il pianeta, ma la loro versione di Islam, che non ha nulla a che fare con il vero Islam. E c'è una disinformazione mediatica inimmaginabile, soprattutto in Italia, che porta a vedere solo le conseguenze e non le cause. Per esempio, tutti a vedere i dolori a Gaza degli innocenti che muoiono, e nessuno a dire che quella di Israele è stata una risposta ad Hamas. Ai suoi razzetti, come qualche fesso va a dire che sono razzetti quelli che distruggono le case. Capisce? Capisco anche che mi devo fermare qua però per questa sera, e ringrazio lei, ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno partecipato, anche quelli in onda che non siamo riusciti a mandare in onda, così come ringrazio Camilla Tomadini, Lorenzo Nespoli, Riccardo Poli e Lucia Tolve in redazione, Fabio Cantadori in regia. Che dire, ci sentiamo lunedì prossimo 18:20:30, buona serata anche da me, Alessio Maurizi, buone vacanze, buona estate, se non andate in vacanza è lo stesso, ci sentiamo lunedì prossimo, ciao!